poi passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:33 minuti, 800-24-0024, il numero di telefono per chiamarci in diretta. Questa sera la Zanzara fino alle 21:40 in diretta con voi per commentare i fatti del giorno. SMS al 349-238-6666, la Zanzara @radio24.it. Andiamo subito con i titoli dei TG, anche se Studio Aperto ha la solita copertina con molti suoni, molti rumori, non so se ci sia il TG2, non c'è. E allora iniziamo con un argomento che è completamente diverso rispetto a quello del terremoto, anche se ha a che fare, purtroppo dico io, con il terremoto. Della serie Non ci posso credere. Non ci posso credere! Non ci posso credere! Beh, il protagonista di questo Non ci posso credere è il vice capogruppo alla Camera del PDL, Italo Bocchino. Perché? Lo ricordiamo brevemente. Bocchino, esponente di punta del prima di Alleanza Nazionale, adesso del neonato PDL, faceva parte del comitato promotore del referendum elettorale. Aveva raccolto le firme, si batteva insomma per il referendum. Dopo la vittoria elettorale del PDL, cosa è accaduto? È accaduto che la Lega, fortemente contraria al referendum per una serie di motivi, ha cercato e cerca tuttora di far fallire questo referendum spostato di un anno, e dunque non vuole accorpare il referendum con le elezioni europee, perché ci sarebbe il rischio di raggiungere il quorum. Bocchino, con una sorta di giravolta degna dell'Italia politica, diciamo la verità, un episodio in classico stile trasformistico, il 25 febbraio sentite cosa dichiara. La scelta della data in cui tenere il referendum e del governo, tenerli insieme all'altra tornata elettorale sarebbe sì un risparmio, però sarebbe un aiuto anche ad una consultazione che deve avere il quorum, che sarebbe favorita dalla presenza ai seggi delle persone che andranno per le europee e per le amministrative. E dunque Bocchino dice, siccome sarebbe favorito se stesso, in realtà sarebbero favoriti quelli che vogliono il referendum e vogliono che vinca il referendum, è meglio non metterlo nella stessa data. Stesso concetto, più o meno il 3 di marzo, dice Bocchino, sì, si potrebbe risparmiare qualcosa, però... Sarebbe bene non spendere molti soldi per più tornate elettorali, ma non c'è nessun precedente di accorpamento del referendum con le elezioni su tutto il territorio nazionale. Ancora Bocchino, il 3 marzo, avete sentito, ancora contro il referendum. Poi cosa accade? Ancora un ribaltone, perché Berlusconi ieri dichiara quanto segue, sentite. Il referendum è una cosa di cui parleremo al prossimo Consiglio dei Ministri. Sì, io penso che valga la pena di un'ulteriore riflessione, perché le argomentazioni che sono state esposte sono degne di approfondimento. Insomma, le argomentazioni dell'opposizione, non solo dell'opposizione, risparmieremo 400-500 milioni, secondo Berlusconi sono da approfondire. Qualcuno ha interpretato questa cosa come un modo per mettere in difficoltà la Lega, insomma equilibri interni alla maggioranza. Ma sentite Bocchino, subito dopo le dichiarazioni di Berlusconi cambia di nuovo opinione. La responsabilità che la politica ha nei confronti del paese per quanto accaduto in Abruzzo deve indurre tutti a riflettere sull'opportunità di accorpare il referendum elettorale alle europee al fine di risparmiare risorse da impegnare nella ricostruzione. Non è soltanto un problema di soldi, ma soprattutto di sobrietà in un momento difficile per il paese, ed è una risposta concreta che la politica darebbe ai cittadini emotivamente coinvolti per il dramma abruzzese. Insomma, ci sono voluti morti dell'Abruzzo per far capire a Bocchino che i soldi del referendum si possono risparmiare. Un altro caso all'interno della maggioranza in questi giorni è certamente quello di Lucio Stanca. Lucio Stanca è parlamentare, è stato ministro nel precedente governo Berlusconi 2001-2006, ministro dell'innovazione, e adesso è stato nominato grande capo dell'Expo 2015, amministratore delegato della società che deve gestire tutti gli appalti, insomma la gestione del grande evento dell'Expo 2015 di Milano, si pensava a uno stipendio di 700.000 euro, poi qualcuno deve aver fatto capire a Stanca non è il caso in questo periodo, 300.000 euro alla fine più 180.000, 150, anzi 180 di premi in caso di risultati, insomma si vedrà, che non è male comunque, più lo stipendio da parlamentare. Qui c'è l'inghippo, qui il caso, qui il nodo, perché? Perché secondo molti e anche secondo me i due incarichi, occuparsi dell'Expo 2015 o fare il parlamentare, sono incompatibili. Cioè uno si dovrebbe dimettere da parlamentare perché fa l'amministratore delegato della grande società che deve gestire un grande avvenimento come l'Expo. Eppure Stanca dice, beh io non lo so se mi devo dimettere, vediamo se qualcuno dice che sono incompatibili. Comunque bisogna valutare il tempo che uno dedica alle due cose, perché fare l'amministratore delegato non è questione di tempo, devi portare risultati. Sentiamolo. Valuterò e sono disponibile a dimettere nel momento in cui mi accorgo davvero che c'è un conflitto sui tempi, anche se aggiungo immediatamente che un amministratore delegato non è valutato sui tempi ma sui risultati. Avete sentito Stanca? Non so se sono incompatibile, ma come non sai se sei incompatibile? Fai il parlamentare della Repubblica, dovresti occuparti a tempo pieno del lavoro del Parlamento, come si fa a fare l'amministratore delegato di una società che si deve occupare di Expo 2015? Ci vorrebbero dimissioni immediate, anzi super immediate. Invece non sarà così. 800 24 00 24. Andiamo al terremoto dunque e alla giornata di oggi, che come sapete l'abbiamo seguita in diretta, la giornata del lutto. Non ci soffermiamo molto su questo, bensì su quello che ha detto il Presidente del Consiglio. E, insomma, per qualcuno il corpo di Berlusconi in Abruzzo, perché Berlusconi in Abruzzo, all'Aquila, ha portato il proprio corpo soprattutto, la presenza tutti i giorni tra gli sfollati, tra i soccorritori, è un modo come un altro di farsi campagna elettorale, l'ho letto qua e là. E Berlusconi oggi l'ho giurato sulle bare, sentite. Mi è stato chiesto da tutti una cosa, diteci che non ci lasciate soli, l'ho promesso davanti alle bare dei loro cari, l'ho detto a diverse persone, il governo assume su di sé la responsabilità dell'aiuto a chi è stato colpito da questo evento, quindi intendo mio dovere, dovere del mio governo, della mia maggioranza. E questo è il Berlusconi che è apparso davvero con tutto il suo corpo in questa crisi, in questa tragedia. Addirittura oggi è arrivato a dire: molti offrono le case agli sfollati, anch'io offro le mie, le case di Berlusconi agli sfollati. Poi bisognerà vedere. Il problema è di non mantenere le persone nelle tende. 14.000 siamo riusciti ad avviarli in attrezzatura alberghiera. Adesso ne stiamo cercando altre. C'è una generosa offerta di case da parte dei cittadini italiani. Io anch'io farò quello che potrò fare offrendo delle mie case. E questa è una sistemazione molto buona. Beh, certamente la sistemazione delle case di Berlusconi è una sistemazione buonissima, se sarà così. 800 24 00 24, ma al di là delle polemiche su chi dice che Berlusconi si fa campagna elettorale, certamente qualche ministro è andato lì e se n'è andato dopo 10 minuti, su questo non c'è dubbio. Al di là di queste polemiche, forse si tratta, come ha segnalato qualcuno, credo Riformista oggi, del primo terremoto nella storia d'Italia, del primo grande evento tragico nella storia d'Italia, con pochissime polemiche, quella su Giuliani subito rintuzzata, e poi le solite polemiche dei soliti, possiamo dire. Le polemiche ci vogliono, bisogna essere corrosivi, bisogna provocare, e dunque i vari Santoro e Travaglio che fra poco ascolteremo. Anche Di Pietro però, per capire davvero che è un primo terremoto senza grandi polemiche, anche Di Pietro accusa certamente, dice che vuole sapere la verità su tante cose, però è pronto all'unità nazionale, sentite. Sia la maggioranza sia l'opposizione siamo fortemente determinati a trovare una unità nazionale nell'individuare soldi, ce ne vogliono tanti, ci vogliono decine di miliardi, ci vogliono, e quindi ci vuole la responsabilità a individuare le priorità. Noi su questo tema non abbiamo nessuna voglia di perdere un minuto per recriminare sul passato, ma vogliamo soltanto cosa fare. Abbiamo già detto che i provvedimenti che se lo portano in aula domani mattina lo approviamo. Vedremo naturalmente se questo spirito di unità nazionale reggerà nei prossimi giorni. Però dicevamo prima, ci sono anche quelli che continuano e cercano la polemica, non dico a tutti i costi, perché ripeto, la polemica ci sta, bisogna cercare la verità, bisogna comunque essere fuori dal coro, è bene che ci sia qualcuno fuori dal coro. Ieri per esempio molti mi hanno fatto pervenire delle mail sulla trasmissione di Santoro, dicendo uno scandalo Santoro contro la protezione civile, eccetera eccetera. Certamente Santoro ha inteso la trasmissione di ieri come un momento in cui c'era bisogno di attaccare qualcuno, qualcosa non ha funzionato secondo Santoro, sentitela. Di fronte a un fenomeno sismico persistente, lì non avevamo un presidio, anche in presenza di una scossa di quarto grado che si è verificata, non c'era un centro, una unità di crisi attiva per coordinare le operazioni. Questo è un dato di fatto. E questo Santoro, poi ci sono altre cose dette da Santoro. Travaglio se la prende con Impregilo, che in realtà ha partecipato solo in parte alla costruzione dell'ospedale. Sentiamo. Un giorno bisognerà pur parlare di questi costruttori. L'ospedale crollato all'Aquila è un'opera a più mani, ma gli ultimi a mettercele erano stati quelli dell'Impregilo, che all'inizio si chiamava Cogefar Impresit. È la stessa che ci ha appena regalato lo scandalo della monnezza a Napoli, e se tutto va bene ci regalerà anche il ponte di Messina. Argomenti più seri secondo me sono quelli che riguardano le assicurazioni. Qualcuno dice: dovremmo fare come in altri paesi, in Francia in parte, in Spagna, forse in Germania, negli Stati Uniti sicuramente. Perché lo Stato si deve accollare tutti i costi di una grande tragedia? Inventiamoci qualcos'altro, per esempio il sistema delle assicurazioni obbligatorie. Ne aveva parlato a 24 mattina, mattino 24, nei giorni scorsi, Zamberletti, sentiamolo. Da quando è nata la protezione civile proponiamo di introdurre anche in Italia, ci sono in tutti i paesi civili del mondo occidentale, delle forme di assicurazione contro le catastrofi, no? Qual è il vantaggio? Tanto dobbiamo caricare sul costo dello Stato tutti i costi delle ricostruzioni, ma la cosa più importante è che fa scattare una cultura della prevenzione, perché è chiaro che se io assicuro il mio edificio devo essere certo, per poter ottenere condizioni buone, che l'edificio sia messo a norma. E questo era Zamberletti. È un grande tema quello dell'assicurazione obbligatoria. Speriamo che il governo lo riprendi dopo l'intervento ieri di Brunetta sul Corriere della Sera. Eccoci qui, 18:47, 800 24 00 24. Siamo con Mario Segni, buonasera. Buonasera. Uno dei leader del comitato referendario sul referendum elettorale. Senta Segni, io la metto giù abbastanza dura, non parlo di Berlusconi, perché effettivamente sul tema dell'accorpamento Berlusconi si è pronunciato per la prima volta l'altro giorno, prima non è che si era pronunciato in pubblico, però ci sono voluti quasi 300 morti dell'Abruzzo per far cambiare idea a qualcuno all'interno della maggioranza. Non parlo della Lega, che pare non essersi ancora convinta, però c'è un caso che è quello di Italo Bocchino, che ha raccolto le firme come lei, con lei per un certo periodo, poi la situazione è cambiata, ci sono state le elezioni, ha detto che non era il caso di accorpare referendum ed elezioni europee perché sarebbero stati favoriti i referendari. Oggi, dopo le parole di Berlusconi, dice che forse per l'Abruzzo si può fare. Sì, mi pare che l'abbiano detto anche altri di Alleanza Nazionale, ma devo dire però che su questo punto e sull'accorpamento, mentre purtroppo ci sono stati tanti ondeggiamenti, Gianfranco Fini è rimasto fermissimo, credo, per sì, ricordare sì, accanto a chi ha fatto tante giravolte, anche chi invece sembra avuto tanta coerenza. La verità è che questa è una cosa incredibile e ancora non sappiamo come finirà, perché ancora sì, il governo deve non è detto, non è detto, certo. Appunto, e non mi pare che per dalla Lega c'è un silenzio minaccioso. Ma la verità è che non è stato tirato fuori un solo motivo, una sola ragione per spiegare agli italiani perché non si deve votare lo stesso giorno, come si fa da tutte le parti del mondo, come in novembre hanno fatto negli Stati Uniti d'America, dove assieme a Obama o McCain hanno votato per governatori, senatori, deputati e per una marea di referendum. Senta, e poi sì, questo non solo sia incivile, perché costringere i cittadini a andare al voto per varie domeniche successive e spinge la disaffezione. In questo caso tre domeniche sarebbero. Questo tre, ma che poi quando questo è incivile e costa veramente una cifra enorme, come ha dimostrato il calcolo della voce.info, beh, allora siamo di fronte a decisioni che dichiarare incomprensibili è poco, dopo l'Abruzzo poi sarebbero scellerate. E incomprensibili in realtà non troppo, perché c'è un calcolo politico. Comprensibilissime. No, no, appunto, no. E, può spiegare agli ascoltatori, lei che è un po' al di fuori, insomma, non è che faccia parte di quella coalizione o di quell'altra coalizione, quale interesse ha la Lega nel far fallire il referendum? La Lega ha una paura che andando verso un bipartitismo sia costretta a scegliere e non possa più andare da sola. Però la verità è che c'è anche una difesa tenace di quello che è la cosa più inaccettabile della famosa legge di Calderoli del 2000, quella che Calderoli, non dimentichiamo, ha definito la porcata, non l'abbiamo definita noi, è stato il suo autore a definire la porcata. E cioè c'è il meccanismo della lista bloccata, che è una cosa che sta mortificando il Parlamento. Il Parlamento ormai è diventato un Parlamento di nominati, non più di eletti. Ora, con mia grande sorpresa, parlando con non solo con dirigenti, ma anche con vari parlamentari, persone per bene della Lega, ho sentito sempre una difesa. Ma questo permette di scegliere i migliori? Sì, ma allora si trasforma il Parlamento in un grande ufficio studi. Tutto così. Perché, tra l'altro, il referendum... modificherebbe anche naturalmente la questione della lista bloccata. Su questo punto non, purtroppo noi non ah no, sulla lista bloccata bloccare. No, è vero, sulla lista è bloccata chiaro no. Che il referendum è un referendum contro questa legge. Sì, che obbligherebbe a rifare la legge, certo. Perché quel significato politico è che questa roba va tutta cancellata e buttata. Senta Segni, ma non è incredibile che si, per carità, dalle tragedie ci sono sempre cose nuove che escono fuori, però utilizzare adesso l'argomento dell'Abruzzo per dire che si devono risparmiare 400-500 milioni, secondo me è pazzesco, da parte di chi prima non ci ha pensato un secondo a risparmiarli magari, no? Certo, ma tanto è vero, guardi, che noi per 3 giorni siamo stati in silenzio, devo dire, perché poi veramente c'erano cose per sé più importanti da pensare, poi tristi. Però l'altro giorno, dopo 3 giorni, mi pare mercoledì o giovedì, Maroni viene fuori con una dichiarazione a qualche giornalista dicendo: no, io continuo a essere contrario all'accorpamento perché l'accorpamento non è un problema di soldi. Cioè, perché l'accorpamento si costa molto, ma il problema dell'Abruzzo non è un problema di soldi, è un problema del tutto diverso. Ora, che il ministro dell'Interno, di fronte a una tragedia come questa, che purtroppo costa anche al paese cifre enormi, perché sì, come tutte le calamità è anche un problema di soldi, purtroppo è anche un problema di soldi, dica cose di questo genere, dimostra che questo veramente dovrebbe andare a fare il ministro della Padania, non il ministro della, con tutto il rispetto per la Padania naturalmente, non il ministro dell'Italia, cioè che è un ministro che si occupa esclusivamente non delle cose del governo e dell'Italia, ma delle cose del suo partito. La ringrazio molto, buona serata. Naturalmente ancora una decisione non c'è. Fino a quando si può prendere una decisione, se accorpare o no? Berlusconi ha detto, e credo che i tempi siano questi, la settimana prossima. E quindi saremo... noi dalla settimana prossima tra l'altro, certo, da mercoledì mattina in un sit-in, giorno e notte, continuamente ad aspettare e a ricordare questa decisione e a ricordare a tutti gli italiani quanto è importante. La ringrazio, buona serata. 18:53, 800 24 00 24. Naturalmente non è che si fa il tifo perché poi vinca il sì o il no, ma semplicemente per l'accorpamento qui, sia chiaro. Massimo da Firenze. Massimo, buonasera. Buonasera. Dica. Sì, è qualche giorno che ho iniziato a sentire qualche politico del centro-destra, ma anche del centro-sinistra, mi sembra ci siano grosse opposizioni a questo argomento, in cui per giustificare la cattiva qualità e la cattiva prestazione degli edifici pubblici in occasione di questo, ma anche di altri terremoti, si dice che la colpa è del sistema degli appalti a ribasso, in cui i poveri costruttori sono costretti ad aggiudicarsi a dei prezzi da fame questi appalti, salvo poi rifarsi sulla qualità degli edifici stessi. Ora, nessuno ha parlato di appalti assegnati a prezzi da fame, Massimo. Si è parlato, e secondo me giustamente, da vedere, da leggere anche un articolo di Enrico Cisnetto oggi sul Foglio, che certamente la pratica degli appalti vince chi offre di meno, provoca delle storture, su questo non c'è dubbio. Sì, ma mi scusi, se io ho un capitolato d'appalto, si suppone che lo debba rispettare. Se poi io lo acquisisco ad un prezzo che non mi consente di garantire la qualità dell'opera, non mi sembra corretto comunque rifarsi appunto sui materiali o su no, ma certo che non è corretto, Massimo. Infatti di questo si sta parlando. Purtroppo, se uno si aggiudica un appalto a ribasso, poi succede, può essere tentato da risparmiare su altre cose. Perfetto, ma lì si subentra, secondo me, la responsabilità personale di chi si aggiudica l'opera. Perché se io aderisco ad un'offerta a condizioni che a mio giudizio non permettono la realizzazione dell'opera con quei requisiti che sono prescritti, sì, sono io che poi mi rendo responsabile di realizzarla appunto in difformità da quanto no, ma questo è chiarissimo. Guardi, Cisneto scrive oggi: è conseguenza di un modo di costruire, sta parlando dell'ospedale dell'Aquila, che ha trovato anni fa la sua consacrazione nella famigerata legge Merloni sugli appalti. Legge che si basa sul principio del massimo ribasso d'asta, un meccanismo che gioca a discapito della qualità dei lavori perché induce a scegliere il progetto più economico invece che quello che abbia il miglior rapporto qualità-prezzo. È chiaro che da questo punto, con una revisione parlamentare della Merloni, bisognerà ripartire nei prossimi giorni, al di là poi delle chiacchiere, cose concrete. La ringrazio. Alessandro da Livorno, buonasera. Cruciale, buonasera. Niente, ha già detto tutto lei, ha detto la verità, Cisnetto. Io sono un costruttore, un piccolo costruttore. Però le devo dire che è la verità. Allora, se io faccio una gara d'appalto pubblico, la gara d'appalto pubblico la perdo perché c'è uno che la fa, che fa chiaramente il prezzo per la gara più basso del mio. Vuol sapere come si fa a risparmiare? Vuol sapere come si fa a mettere in opera una struttura risparmiando e rientrandoci? Me lo dica, me lo dica. Allora, guardi, io lo dico in due parole. Calcestruzzo. Io le ripeto, non sono un tecnico. Sono un piccolo costruttore, però quando acquisto il calcestruzzo si acquista con delle simbologie che con dei termini si chiamano calcestruzzo a resistenza, e la simbologia è EDC-K300, EDC-K250 e così via discendendo. Ci traduca. Allora, un EDC-K300 significa che il calcestruzzo deve sottostare ad una forza di 300 kg per centimetro quadrato. Naturalmente il calcestruzzo è composto da inerti che sono sabbia, ghiaia e cemento. Naturalmente il 300 ha un quantitativo di cemento maggiore rispetto a un 250, sì, non solo. Vabbè, lei dice giocando sulle quantità si può risparmiare. Semplice, non solo, ci vengono aggiunti fluidificanti e questo porta a un costo. Ora, diminuendo il quantitativo di cemento diminuisce anche il costo del calcestruzzo, perché un quintale di cemento che si paga sul mercato circa 10-12 euro al quintale, lei si immagina un calcestruzzo da pagarlo 80 euro a un metro cubo a pagarlo 70. Non c'è dubbio. Quando senta Alessandro, una cosa, lei ci crede a questa storia della sabbia di mare messa dentro il cemento, il calcestruzzo in Abruzzo? Sulla sabbia di mare ho i miei dubbi, perché io per coloro che producono calcestruzzo e ne conosco diversi, so che nella mia zona, per esempio, nonostante sia di Livorno, la sabbia di mare non viene usata, però non si può escludere. Comunque il discorso degli appalti, secondo me, e concludo, se non si interviene, perché vede, un conto è giocare sul calcestruzzo, un conto è giocare per esempio sulla fornitura, cioè nell'appalto, nel complessivo, sì. Se io metto un tubo dell'acqua di qualità scadente, quello che mi può andare male è il fatto che il tubo si spezza, possa... No, certo, una cosa è calcestruzzo. Andiamo a sentire i titoli. Sky TG24, come al solito, non ha titoli in questi giorni, c'è una copertina. TG3 invece, titoli. Funerali solenni per le vittime del terremoto, giornata di lutto nazionale, silenzio e lacrime davanti alle 205 bare. Berlusconi, non lasceremo solo nessuno, l'ho promesso davanti alle bare, serve un clima di unità politica, le mie case a disposizione degli sfollati. I morti sono 289, forse ancora un sopravvissuto sotto le macerie, processati per direttissima, 4 arrestati per sciacallaggio. Dopo il terremoto, sempre più urgente avere certezze sulla sicurezza delle case che abitiamo. I consigli di costruttori e consumatori. Secondo la Banca d'Italia la crisi è ancora pesante, i conti pubblici sono in peggioramento, ma la fase più grave di recessione è alle spalle. Tenta la fuga il comandante della nave americana, ostaggio dei pirati somali, ma viene ripreso, liberati con un blitz 5 ostaggi francesi, uno muore. Il volto dell'Italia che cambia, in mostra a Roma migliaia di foto e filmini di famiglia raccolti dalla fine dell'Ottocento fino ai giorni nostri. Allora, erano i titoli del TG3, in gran parte dedicati ancora alla giornata del lutto, ai funerali. 800 24 00 24. Due ascoltatori mi scrivono dei messaggi. Vogliamo scommettere che all'Aquila non ci saranno colpevoli? Se ci saranno, non faranno un solo giorno di carcere? Me lo sento, l'Italia è così, mi scrive uno. Un altro: vivo in zona sismica, ho denunciato un'impresa per la truffa sui cementi, vorrei raccontare la mia vicenda, ci chiami, gentile ascoltatore. E ancora polemiche sul legame tra il terremoto, i soldi che ci vorrebbero e il ponte sullo stretto di Messina. Questa volta è Claudio Fava, esponente di Sinistra e Libertà, una nuova formazione che si presenterà alle elezioni europee, ex DS, siciliano, storico oppositore del ponte, ieri da Santoro. E io sento dire dal Presidente del Consiglio: noi non abbiamo la bacchetta magica, no. Voi avete 1.300.000.000 che il CIPE ha deciso di destinare al ponte sullo stretto. Col 1.300.000.000 si mettono in sicurezza alcune centinaia, più di un migliaio di scuole. Si tratta di decidere quali sono le priorità. E su questo noi dobbiamo pretendere scelte dal governo. Noi abbiamo un territorio in cui 5.800 comuni sono a rischio idrogeologico, il 100% dei comuni della Calabria e della Toscana. Cosa facciamo? Possiamo immaginare che una grande opera pubblica in questo paese non sia un ponte, ma sia la messa in sicurezza di questo paese, che peraltro, dico solo una cosa, ci permette di risparmiare. Sai quanto abbiamo speso per l'alluvione di Firenze nel 1966? L'equivalente di 10 miliardi di euro. Se fossimo intervenuti per mettere in sicurezza quella città, avremmo speso 200 milioni di euro. E il giorno dopo, cioè questa mattina, credo a mattino 5, Berlusconi sulla questione dove prendere i soldi per il terremoto. Sentitelo. Ho detto anche che per coprire gli investimenti potremmo anche ritardare magari la realizzazione di qualche grande opera già pianificata. Mi hanno chiesto: ma riguarderà questo anche il ponte sullo stretto? No, ho risposto no, perché il ponte sullo stretto è un'opera epocale di cui una nostra regione, la Sicilia, ha assoluto bisogno per sentirsi finalmente terra italiana a tutti gli effetti. Questo Berlusconi. Un altro ascoltatore mi scrive un messaggio in tempo reale con questo che stiamo ascoltando. Non sono di destra, ma Berlusconi in questa occasione si è comportato in modo esemplare, la sinistra dovrebbe dargliene atto. Allora, restiamo su Berlusconi, perché oggi ha offerto le sue case. Qualcuno interpreterà questa cosa come una boutade, magari sarà una boutade, non lo so, però ha detto: siccome molti italiani hanno messo a disposizione le loro abitazioni, anch'io offrirò agli sfollati le mie. Il problema è di non mantenere le persone nelle tende. 14.000 siamo riusciti ad avviarli in attrezzature alberghiere. Adesso ne stiamo cercando altre. C'è una generosa offerta di case da parte dei cittadini italiani. Io anch'io farò quello che potrò fare, offrendo delle mie case. E questa è una sistemazione molto buona. Beh, offrire le proprie case è un colpo d'ala, secondo alcuni sicuramente è ancora un modo per farsi pubblicità, per essere presente sulla scena, per altri un colpo di genio. A voi naturalmente il giudizio, aspetto i vostri interventi all'800 24 00 24. E andiamo a Santoro. Perché andiamo a Santoro? Perché io ho l'impressione che, al di là della vicenda Giuliani, al di là di qualche polemica che sempre si accompagna sugli aiuti in ritardo, l'efficienza della macchina che si è messa in moto, della protezione civile, ho l'impressione che sia, non so se sia un bene o un male, ma il primo terremoto in Italia, il primo grande evento di questo tipo che non si accompagna a grandissime polemiche. Insomma, è una novità importante. Le polemiche sono limitate a quelle che le fanno sempre, le polemiche, a quelli che in default fanno polemica, perché bisogna naturalmente farla, perché è giusto farla, perché bisogna essere anche corrosivi, bisogna essere provocatori. Santoro, per esempio. Quindi quello che abbiamo capito è che il sindaco, dopo la scossa del quarto grado 3,9, dice, guardate, anche per una questione di verificare lo stato dell'arte di queste scuole, dobbiamo chiuderle per 2 giorni, cioè quindi prende questo provvedimento. Secondo te, secondo Ruotolo, scusami, a questa cosa sì. Doveva seguire qualche altra cosa, insomma ci doveva essere qualcosa da fare che non è stato fatto oppure no? Ma cioè, guarda, quindi l'allarme c'è stato, anche... già erano state chiuse una settimana prima, sono state chiuse anche questi 2 giorni, allora no, mi sembrava una situazione tranquilla. Non era una situazione tranquilla, ma il sindaco sostiene che lui non può proclamare l'evacuazione, si confronta con la grandi rischi, con la protezione civile che ha, diciamo, vabbè, la partita in mano. Ok, okay. Allora fermiamoci. Insomma, il filo conduttore poi alla fine di ieri sera della puntata di Santoro è stato questo: cercare delle responsabilità non solo nelle vicende che riguardano la staticità e la struttura degli edifici, ma anche nell'allarme, nei momenti che hanno preceduto il terremoto. E tra l'altro la prefettura, che era il centro che avrebbe dovuto coordinare le operazioni nel caso di sisma, è venuta giù, si è sbriciolata, si è frantumata e per fortuna non c'era nessuno là dentro, però in una situazione di crisi è abbastanza singolare che non ci fosse un presidio lì che stesse ad osservare quello che stava accadendo. Sono polemiche che vanno bene, sono polemiche giuste secondo me, che ci vogliono in questi casi. Chiudiamo questa parte con il caso Stanca che si è aperto, 480.000 euro di stipendio, 300.000 fissi più 180 in caso di risultati che sicuramente verranno raggiunti, figuriamoci, 480.000 euro l'anno di stipendio per fare l'amministratore delegato, il gran capo di Expo 2015, però al momento resta parlamentare. Valuterò e sono disponibile a dimettere nel momento in cui mi accorgo davvero che c'è un conflitto sui tempi, anche se aggiungo immediatamente che un amministratore delegato non è valutato sui tempi ma sui risultati. Secondo me fare il deputato è incompatibile con il ruolo di amministratore delegato di una società importante che deve gestire un evento enorme come l'Expo 2015. Michelangelo da Salerno, poi torno con l'ascoltatore da Livorno. Michelangelo, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera agli ascoltatori. Lei ha perfettamente ragione, ma aggiungo un'altra cosa. La mia personale considerazione in ordine alla vicenda di Stanca e più in generale quella degli onorevoli, è che chi si propone per una carica elettiva e viene eletto ha una carica anche importante, quale parlamentare della Repubblica, si prende un impegno, assume un impegno di fronte ai suoi elettori e di fronte alla collettività di assolvere a quell'impegno, e secondo me non deve sottrarsi a questo impegno per un altro incarico di tipo personale. Vale a dire, non è un dirigente d'azienda che a un certo punto si dimette e non lavoro più per l'azienda X, preferisco lavorare per l'azienda Y. Ma stiamo scherzando? Cioè, secondo me, questo è la prima considerazione da farsi in questo caso. Non quanto tempo posso dedicare a fare l'onorevole piuttosto che fare l'amministratore delegato di Expo. Io devo dedicare il mio 110% di impegno a fare l'onorevole nel momento in cui vengo eletto. No, ma la mia certamente posizione. No, ma io sono d'accordo con lei. Eccoci qui, naturalmente la borsa oggi non c'è, ma sapete, l'abitudine è quella. Alle 19:31 riprendiamo, dunque oggi c'è grandissimo spazio per voi perché ci sono meno interruzioni o comunque interruzioni più brevi, 800 24 00 24, e vi ripeto, saremo in diretta con la Zanzara eccezionalmente fino alle 21:40 a sentire le vostre opinioni sui fatti del giorno. Allora, riprendiamo l'ascoltatore da Livorno, costruttore, piccolo costruttore Alessandro, eccoci qui. Dunque, io penso che avevo perso che finito. L'unica cosa che volevo sottolineare inoltre era questa. Oggi sono un po' più ottimista sui fabbricati di nuova costruzione e le spiego brevemente perché. Perché anche se si fa le gare d'appalto a ribasso, oggi diciamo si specula più sul fattore sicurezza, nel senso che quando lei sa benissimo. Cioè si specula meno forse? No, si specula più. Allora, si cerca di risparmiare di più, non è una cosa positiva. Infatti il problema è quello, perché vede tutte le morti. Beh, allora perché è ottimista, no, lei? Sì, perché le spiego, perché per quanto riguarda la costruzione, il, diciamo, anche se faccio la gara di basso e vinco l'appalto facendo la gara di basso, sì, però sì, posso integrare quello che perdo speculando sul fatto della sicurezza, nel senso che lei sa che quando facciamo una gara d'appalto pubblica c'è un certo costo dovuto all'appalto di costruzione, più c'è un quid che, su cui non si può fare ribasso, che ci viene dedicato alla, per la sicurezza sul lavoro. Ah. Bene, io sfrutto la gara ribasso, poi quello che mi manca lo prendo dalla sicurezza. Ecco perché si verificano tante morti bianche, oltretutto. Quindi se noi non ci mettiamo nella testa di fare un discorso molto più serio, guardi, io le dico questo, io ho lavorato molto tempo fa nella base militare che abbiamo qui vicino a Livorno, sì, e dovevo fare delle opere in calcestruzzo, in cemento armato, pardon, e bene, io avevo i tecnici direttamente della base militare americana che mi venivano a controllare autobettoniera per autobettoniera. Eh beh, certo, mica volevano il calcestruzzo finto gli americani. No, infatti, il problema è proprio quello, che noi, tra le altre cose, che mancano i controlli, certo. Sì, perché le dico l'ultima cosa. Vedete, ma ci vogliono sanzioni molto pesanti da questo punto di vista, le sanzioni sono troppo leggere, non ci sono i controlli. Alessandro, la ringrazio, la devo lasciare per dare spazio ad altri ascoltatori. Andiamo a Bologna da Enza, buonasera. Buonasera. Volevo sapere chi gestisce i soldi che lo Stato mette a disposizione per i terremotati, e poi vorrei sapere anche su quale sito internet posso vedere come e quanto sono stati utilizzati. Beh, gentile signora, i soldi sono gestiti da più enti, sicuramente la Regione, la Protezione Civile, sono distribuiti e gestiti dal governo e poi gestiti dai vari organismi presenti sul territorio. Berlusconi credo ieri abbia detto ci sarà totale trasparenza nelle spese per il terremoto, vedremo, insomma, spero ci sia una trasparenza anche su internet, una trasparenza che si può in modo che tutti i cittadini possano controllare. È ancora troppo presto, però bisogna che da questo punto di vista le cose vadano nella direzione giusta, non come è avvenuto nei casi passati. La ringrazio. Danilo da Roma, buonasera. Buonasera Luciani. Guardi, io volevo intervenire rapidamente sul discorso delle previsioni dei terremoti. Faccio una brevissima premessa. Io ho vissuto il terremoto dell'Umbria del 97. Sì. E anche lì ricordo perfettamente che ci furono già ad agosto una serie di scosse, anche di 3-4 gradi di magnitudo, e c'erano i miei genitori che sono col ferito che stavano lì. Io andai proprio a prenderli per portarli via, perché mia madre era terrorizzata. E quello che voglio dire appunto è che anche qui in Abruzzo c'è stata la stessa situazione, però nessuno si prende la responsabilità di dire ok, evacuiamo le zone perché ci sono delle scosse, finché non viene poi la scossa quella, diciamo, sì, però abbiamo ripetuto più volte nei giorni scorsi che non è detto che dopo una serie di scosse che durano anche a lungo ci debba essere per forza una scossa terrificante oppure una scossa che provoca gli effetti che ha provocato in Abruzzo, non è detto, Che detto, infatti poi l'Italia ci sono centinaia di scosse. Capito, bisogna gestire però queste situazioni di rischio, ancora non si è arrivati a gestirle in modo da salvare tante vite umane, su questo non c'è dubbio, però è complicato, è difficile evacuare intere porzioni di un territorio, Danilo. Ce la prendiamo sempre anche con le istituzioni, poi io mi ricordo per esempio che mio padre non voleva neanche andare via, sono stato io a portarlo via veramente quasi con la forza, e come lui tutte le persone anziane del posto non se ne sarebbero mai andate, finché poi non sono stati chiaramente costretti, certo, dall'evento. Certo. Quindi è proprio una questione sia di cultura ma anche di proprio tecnologica, è impossibile ma infatti si fa presto a dire gli allarmi non sono stati sentiti. Ieri ho seguito con molta attenzione la trasmissione di Santoro, che come al solito aveva anche degli elementi provocatori corretti e insomma lo spirito di critica che ci vuole, però insomma strillare e arrabbiarsi perché qualcosa non ha funzionato nella previsione del terremoto mi sembra francamente una polemica insussistente. Si fa presto a dire bisogna avvertire meglio le popolazioni eccetera, piuttosto, e la ringrazio Danilo di questo intervento, ancora nell'articolo di Cisnetto oggi sul Foglio leggo: è assurdo che non si disponga di sistemi di comunicazione attivabili da prefettura e protezione civile per avvisare e indirizzare la popolazione nelle fasi immediatamente successive agli allarmi. Con pochi soldi e ricorrendo alle tecnologie mobili che tutti usiamo nella vita quotidiana e nel lavoro, si sarebbe potuto avvisare i cittadini aquilani che c'erano scosse imminenti, suggerendo loro di prendere le dovute contromisure. Non lo si è fatto fin qui, lo si faccia in futuro. Cioè, ci vogliono forse dei sistemi nelle zone a grande rischio sismico di comunicazione con la popolazione, forse più importanti, più seri. Quelle stesse tecnologie, scrive ancora Cisnetto, possono essere usate anche per mettere in atto un protocollo di fuga che andrebbe studiato, ora non c'è, nel durante, per ricercare più facilmente le persone rimaste sotto le macerie nel dopo. Basterebbe un chip del tipo di quello che si usa per ricercare sciatori alpinisti rimasti sotto le valanghe, e invece siamo al Medioevo se non si usa neppure una sirena come quelle dei tempi di guerra. Per esempio, la tecnologia dei trasmettitori RFID, evoluzione dei cosiddetti codici a barre, consentirebbe di comunicare con dei centri di ascolto per trasmettere la posizione e per dare e ricevere informazioni. I ministri invece di versare lacrime ci dicono qualcosa su questo punto. Insomma, io credo che ci siano delle cose concrete da fare che costano però un sacco di soldi, e ho letto da qualche parte che per esempio il bilancio della protezione civile di anno in anno è stato ridotto negli ultimi anni. Ferdinando dalla provincia di Salerno, buonasera. Buonasera. Dica. Buonasera signor Cruciani, la ringrazio per lo spazio che mi dà in trasmissione e le faccio i complimenti per l'informazione che fate. Prima di tutto voglio presentare il mio cordoglio al dolore che ha colpito le popolazioni dell'Abruzzo. Sì, il cordoglio va benissimo, lei dovrebbe abbassare anche la radio perché sennò sentiamo due volte la sua voce, grazie. Non sono all'aperto. Comunque io abito nella provincia di Salerno, abbiamo avuto marginalmente i danni del sisma dell'80 in Irpinia. Io ero molto piccolo, però ricordo quello che è successo, quindi capisco il dolore delle persone e auguro loro di non aspettare lo stesso tempo che abbiamo aspettato noi per la ricostruzione. Speriamo, non credo, insomma, sono passati tanti anni e spero che qualche passo in avanti l'abbiamo fatto. Certamente. Io come ingegnere ho dato la mia disponibilità all'ordine professionale di Salerno per essere assegnato alla protezione civile, per dare il mio contributo. Volevo rispondere all'ascoltatore precedente per quanto riguardava i ribassi d'asta sulle gare. Sì. Ha detto che si recupera dalla sicurezza, è un errore comune e gravissimo, è una cosa che assolutamente deve essere evitata. Poi, sì, però negli anni scorsi, Ferdinando, mi scusi, ma sentiamo davvero un ritorno, lei sarà pure all'aperto, ma questo intervento è praticamente inascoltabile dal punto di vista acustico. Il problema dei ribassi d'asta, bisogna mettersi d'accordo, perché la legge fu introdotta per risparmiare, per motivi di budget, per motivi di bilancio pubblico. Forse adesso qualcuno mi raccontava, un grande manager come Vito Gamberale mi raccontava tempo fa che in Spagna per esempio non ci sono di questi problemi, quando bisogna assegnare un appalto lo si assegna anche a chi offre di più e dunque lo Stato paga di più, l'ente locale paga di più, semplicemente perché si hanno maggiori garanzie sulla qualità del lavoro e non ci sono scandali. Roberto da Napoli, buonasera. Pronto? Sì, buonasera Roberto, dica. Buonasera, salve. Saluti a tutti. Una piccola... Roberto, sento anche con lei sento un ritorno di audio. Lei ha la radio accesa? Mi sente? La sento, dica. Va bene. Allora, volevo fare un intervento un po' un taglio diverso. Io ho fatto il superispettore nel periodo di Zamberletti, nell'80, e quindi siamo andati a vedere l'inagibilità a Napoli. Sì. Il sindaco Valenzi si dava 100.000 casi di inagibilità. Poi effettivamente ne abbiamo verificati il 14%, il che significa che ci sarà una grande speculazione, ho sentito che tutta l'area è inagibile quando poi avremo una soluzione di questo genere. Questo è un punto. Cioè lei dice, mi scusi, cosa è accaduto a Napoli dopo il terremoto? A Napoli stavano tutti inagibili, gran parte inagibile, quando in effetti poi abbiamo verificato che il 14% era inagibile. Può succedere anche questo, certo. Anche questo è un primo punto. Secondo punto, nessuno. Cioè, lei dice bisognerà verificare concretamente quello che è inagibile e quello che non è inagibile, sì. Perché ci sono delle persone che ci marciano sopra su questa cosa. Certo, certo. No, questa è tutta una filiera che si ci marcia sopra. Poi, secondo punto, la responsabilità. Non si parla di responsabilità personale. Se io ho una casa vecchia e non è in sicurezza, io ho una responsabilità personale, quindi non ho detto che debba avere un indennizzo totale su quella casa. Un terzo punto. Cioè, se lei. No, questo è importante, Roberto, mi scusi. Lei dice: non è detto che io debba avere un indennizzo totale se non sono stato. Se non mi sono messo a norma. Se no? Sono stato negligente. Il decreto legislativo 81 del 2008 sulla sicurezza sul lavoro dà la negligenza del lavoratore. Addirittura prevede l'arresto per il lavoratore se fa atti negligenti. Ma anche chi conduce una casa può essere negligente. E quindi non è detto che io debba fare il rimborso di tutta la casa per la sua negligenza. Certo, certo. Poi terza cosa? Un terzo punto fondamentale è che la legge, non so se lo sa, le nuove tecniche di costruzione entreranno in funzione nel 2009, ma sono state prorogate al 2010, sì, fino a quando. Sì. Allora, no, pare che adesso entrino in funzione, sì, entrino in vigore, sì, subito. Va bene, dato che la colpa è politica e conosciamo i nostri bravi politici, il discorso va saltato. Basta fare una filiera dove chi compra, chi acquista, chi progetta, chi realizza fa la cosiddetta assicurazione garantita. Ecco, no, io questo le volevo chiedere. Questo le volevo chiedere, siccome lei è stato ispettore di Zamberletti, insomma, questa questione dell'assicurazione che lo stesso Zamberletti nei giorni scorsi ha tirato fuori in una nostra trasmissione, è una strada da seguire, ne scriveva oggi anche, ne ha scritto oggi Giannantonio Stella sul Corriere della Sera, l'aveva scritto il ministro Brunetta sempre sul Corriere nei giorni scorsi. È una strada da percorrere seria oppure no? È una grande balla perché fa anche io l'assicurazione. Ci sono i progetti di durabilità dei calcestruzzi che costano appena il 2% in più. Se io faccio il calcestruzzo durabile 100 anni, garantito e durabile e certificato, io non ho bisogno di assicurare la casa. Io faccio le certificazioni del progettista, certificazioni del realizzatore, certificazione di chi vende e poi ovviamente chi compra mantiene la certificazione, il che significa costare meno e non far arricchire l'assicurazione, perché Zamberletti è il solito che ci ha giocato anche durante il sisma di Napoli e quindi vuole fare anche questi giochi con l'assicurazione adesso. Vabbè, adesso non è che sono... Ho capito, però non è che sia... Ogni proposta nasconde una magagna, vediamo, insomma, non credo che le assicurazioni già vogliono marciarci sopra, insomma, bisogna vedere. Magari ne approfittano anche i cittadini, ne approfitta il paese perché si spendono meno soldi e si è tutti più sicuri, insomma, non è che dietro ogni proposta ci sia sempre dietro una trama nascosta, una trama nera. La ringrazio, Roberto, con molto piacere ospitiamo Beppe Severgnini, buonasera. Buonasera. No, non c'è. Eccoci sempre qui. Una trama dietro le cose italiane, spesso sì. No, spesso sì, però siamo all'inizio di una discussione sulle assicurazioni, già no, c'è no, la... No, non mi riferivo a quello, ho ascoltato a quel problema in particolare. Dicevo no, che certo, purtroppo, assolutamente. Male, spesso si indovina, ma siamo buoni, è Pasqua e abbiamo attraversato giorni duri. Soprattutto oggi, naturalmente. Lei ha scritto un bel articolo sul Corriere della Sera, per questo l'abbiamo chiamata, ieri, sulle elezioni europee. Non c'entra niente col terremoto, ma ci occupiamo anche di altre cose, come normale che sia. Ci stanno prendendo in giro, ci sentiamo fessi, anzi mi sento fesso, scrive Severgnini, e non andrò a votare alle elezioni europee. Perché? Anzitutto è la prima volta che scrivo qualcosa del genere, io mi sono sempre battuto per andare a votare e ancora oggi ritengo che nelle elezioni politiche bisogna scegliere il meno peggio, andare, un governo comunque è necessario, questa è la mia opinione. Questa elezione europea, noi siamo uno di 27 paesi e siccome queste candidature, quelle che ci stanno offrendo, sono una vera presa in giro, poi magari facciamo qualche esempio, ecco, forse è l'occasione per la plebe democratica, e lo siamo noi, e non credo di essere noto per essere un populista ruffapopoli, però davvero c'è un limite a tutto, e quindi essere pigliati in giro, no, forse io non vado a votare, non è che invito tutti a non andare a votare, certo. Ci vado a votare per il referendum, che dovrebbero fare il 7 insieme alle altre elezioni, se l'election day è speriamo, vero, speriamo. Così risparmiamo anche un po' di soldi, il 14 vado, il 7 no. E a proposito, faccio una piccola digressione, poi andiamo ancora sulle europee. A me sembra incredibile che ci sono voluti 300 morti quasi in Abruzzo per far dire a qualcuno che bisogna accorpare il referendum con le elezioni europee per risparmiare 400 milioni. È ancora più umiliante per la politica italiana, o no? Guardi, io l'ho scritto sul Corriere della Sera, ho fatto una trasmissione a Sky, che è la mia casa televisiva, ne ho parlato due o tre volte a Radio Monte Carlo, che è vostro concorrente, anzi la ringraziamo che mi ha dato l'eccezione. Allora, non è che io i mezzi non li ho, io sono uno e non sono certo l'unico. Il problema è che siamo stanchi, siamo disillusi, abbiamo altro da pensare, e sull'Italia c'è una sorta di cartello invisibile con scritto non disturbare, su noi italiani anzi. No, assolutamente, questa questione che qualcuno ha tirato fuori oggi, alcuni esponenti della maggioranza che prima erano a favore poi contro il referendum per questioni di interne, di equilibrio, beh adesso forse si possono, questi 400 milioni servono per l'Abruzzo, a me appare ancora più incredibile di chi prima sosteneva il referendum e poi lo boicottava, forse era meglio stare zitti. E vogliamo sentire qualcuno dei nuovi protagonisti, nuovi in realtà vecchi protagonisti che ci saranno nelle elezioni europee, per esempio Mastella, sentiamo. Intanto si candida alle europee, però col PDL, anche questo lei l'ha spiegato e qualcuno ha detto ma come, accidenti, col PDL allora scusi, ecco, con chi mi candidavo, col 4%, con quelli che erano comunisti e si mettono assieme, con la sinistra, si mettono assieme, io sono col PD europeo dove ci stanno anche altri, quindi evidentemente è molto più familiare per me, avendo il PD invocato a tutti i costi e chiesta diciamo questa legge con grande volontà, evidentemente ognuno fa delle scelte o ti incontro delle situazioni che ci sono, mi pare abbastanza evidente. Vabbè. Mi pare abbastanza evidente, sempre secondo Mastella. Altro esempio, Berlusconi ha detto che farà il candidato di bandiera, Franceschini ha risposto, è un imbroglio, pochi giorni fa, prima del referendum, Di Pietro. Quando il Presidente del Consiglio si candida per assumersi la responsabilità di tutta quella coalizione e a dire questa formazione di centrodestra la rappresento io e in prima persona intento portare come condottiere questa squadra al centrodestra, nel centrosinistra, Cristo ci deve stare che si oppone o no? Se non lo fa Franceschini, mi dispiace per lui, ma io all'opposizione ci sto. Prima del terremoto naturalmente, poi ci sono altri casi, il caso Cofferati, Vendola, anche lui che è governatore della Puglia e si candida e dice che Franceschini dovrebbe farlo, una grande confusione, sa come la penso io Severgnini? Io penso che le elezioni europee purtroppo vengono concepite in Italia come una prova di forza all'interno delle coalizioni, un partito contro l'altro, cioè dell'Europa alla fine non gliene frega niente a nessuno e sono considerate da tutti un test elettorale, l'ennesimo test elettorale con cui misurare le forze all'interno di una coalizione o naturalmente poi una coalizione contro l'altra. La pensiamo allo stesso modo e mi sembra di un'evidenza solare, però se ci pensiamo vuol dire anche che la nostra classe politica ci considera veramente una banda di gonzi, perché io sono andato a vedermela per controllare la incompatibilità con la carica di parlamentare europeo, sono molte, sono chiare, non puoi essere un deputato nazionale, non puoi avere un incarico di governo, non puoi essere alla guida di una regione, quindi mi spiace per Vendola, per Di Pietro e naturalmente per il Presidente del Consiglio, ma questa cosa qua vuol dire proprio, allora così è un sondaggio ufficiale, sondaggio, io voglio sì. esserci e voi e alla fine dell'Europa, del Parlamento europeo non ci frega niente, io elettore non ci sto personalmente, sono uno, vadano gli altri. Un'ultimissima cosa è questa, non c'è solo il fenomeno delle candidature incompatibili in partenza, incompatibili ab initio, c'è anche un fenomeno che è tutto italiano della migrazione, anzi della fuga, e questo è trasversale più o meno, come l'altro fenomeno peraltro, cioè dopo un anno basta una poltrona di sindaco, basta un assessorato oppure un ministero quando ci sono le elezioni politiche per andare via dal Parlamento europeo. Mi sembra che la cifra sia su 70 8 nostri parlamentari europei hanno cambiato, per questo motivo sono lasciato in 35, penso che sia questa. Tra i 2 e 3 anni, sì. È così. Bene, grazie a Beppe Severgnini, grazie. Buona Pasqua. Grazie della sua Buona Pasqua, 19.50, 800 24 00 24. Dove andiamo? Mauro Reggio Emilia, eccoci qui. Luciani, buonasera. Buonasera. Spero che lei mi possa dare 2 minuti chiedo scusa che parlo male perché sono uscito dal dentista. Io volevo parlare su Cofferrati, io sono un emiliano di Reggio Emilia. Come è andata dal dentista, Mauro? È andata male. Allora sono come sempre dal dentista, non me ne voglio i dentisti. Sì, infatti ho tardato troppo. Niente, le volevo dire, io sono un imprenditore medio, fatturo 80 milioni di euro, opero in 4 città dell'Emilia e volevo parlare di Cofferrati. Non è che fattura poco, Beh, ma non sono tanti perché non contano nulla nella nostra economia, questo è un fatturato, bisogna fatturare o di meno o di più, perché di più lei è considerato dallo Stato, o di meno perché può fare certe scelte con certe libertà, comunque a parte questo diciamo non me l'ha imposto nessuno, è una scelta mia. No certo, ma che significa, che significa essere considerato dallo Stato, Mauro, se uno fattura di più? dipende. Cioè viene considerato un grande imprenditore da tutelare, diciamo, in questo senso? No, dico, certamente le grandi imprese dove io faccio lavorare un centinaio di persone, le grandi imprese che hanno migliaia di dipendenti sono tutelati, sono tenuti più in considerazione, capito? Ecco, in questo senso. Noi non siamo né calde, né acqua calda né acqua fredda, siamo in una situazione così, però come ripeto, io continuo a combattere. Anche se ho preso dei provvedimenti ultimamente riducendo il 30% dello stipendio, il mio compreso, tutti i dipendenti, e allora abbiamo detto invece di licenziare delle persone prendiamo un po' tutti meno, ma stiamo tutti sulla barca, capito? E allora mi fa un po' rabbia sentire la proposta di Castelli di limitare lo stipendio del 10%. Io, come scrissi un'email a Veltroni, dico, il politico non è dalla data di nascita che debba fare il politico, vuole essere altruista, vuole essere al servizio del paese. A mio avviso lui dovrebbe avere uno stipendio come un primario di ospedale che si dedica agli altri, perciò dovrebbe avere 3.500 euro al mese. Io ho degli amici che sono consiglieri regionali, fanno una presenza 2-3 volte al mese e prendono 12.000. Io, signor Cruciani, non mi sono mai dato 12.000 netti, pur fatturando e pur avendo una firma che ho impegnato anche il vaso da notte di mia mamma, capito? Non mi sono mai dato questo stipendio, perciò credo che sia una vergogna come l'offerta che è stata fatta a Udine ultimamente da parte dei parlamentari. O le offerte le fanno veramente oppure non le debbono fare. Ritengo che il capitolo dello stipendio dei parlamentari deve essere riveduto, perché non può stare in piedi, perché tutti possiamo scegliere di fare i parlamentari. Lei, ad esempio, si candidasse, avrebbe uno stipendio, se va a Strasburgo, di 20-30 mila euro senza tribolare come sta tribolando adesso con la sua radio, che prende anche delle frecciate. Però io volevo soffermarmi, se lei mi toglie. Tribolare mi sembra eccessivo. Guardi, sullo stipendio dei parlamentari la pensiamo allo stesso modo, quello dei parlamentari europei è scandaloso, sì, e deve essere parificato. Deve essere parificato a quello dei parlamentari di altri paesi, e lo sarà per fortuna a partire dalla prossima legislatura. Quello dei parlamentari italiani, il problema sono poi le voci correlate, non è tanto lo stipendio. Sì, ma le conosco, lo stipendio degli amici parlamentari, le conosco. E poi lei ha ragione quando dice che lo stipendio, per esempio, dei consiglieri regionali mi sembra francamente eccessivo rispetto al lavoro di un consigliere regionale. Capisco un rappresentante della giunta regionale, quello è un altro discorso, ma un consigliere regionale che prende delle cifre astronomiche rispetto al lavoro e all'impegno di un consigliere regionale, anche poi al ruolo di un consigliere regionale. Mauro, qual è l'altro discorso? Io sulla mia scrivania ho un dato, che in Italia abbiamo 761.000 auto blu, l'America ne ha 76.000, che l'America. Guardi, quel dato mi sembra un dato. Non credo proprio che sia giusto. Fu presentato tempo fa da un quotidiano, da un'associazione, ma non ha mai trovato conferma. Comunque le auto blu sono tante in Italia, non credo che siano 761.000. È un dato nazionale. Io faccio vedere, però io volevo togliere il mio disturbo per parlare un attimino solo su Cofferati. Dunque, sì. Guardi, Cofferati, se lei si ricorda, disse quando venne via dalla CGL che andava a maturare la pensione a Pirelli, e poi è stato imposto a Bologna dal partito. Io sono iscritto, premetto. Anche lui l'avrà voluto. Cioè, sì, non è però che... io dall'età di 14 anni, perciò sono 45 anni che io appartengo a tutti questi passaggi del nostro partito. Lei è stato comunista, poi... la federazione FGC, non quella del calcio. Io sono stato anche presidente del Modena, non mi vergogno di dirlo, e sono quello che ha denunciato Mattarese in quel periodo. Ricordo. Da nascosto, Mattarese ancora presidente, comunque, pur avendo patteggiato. Comunque, al di là di questo discorso, dico, Cofferati è venuto a Bologna. Io mi meraviglio anche dei bolognesi, perché ne abbiamo tanti dei bravi, perché io opero anche a Bologna, che ho una sede anche a Bologna. Ce ne abbiamo tanti, però si è dovuto ingoiare Cofferati. Cofferati ha detto, si è rimangiato che doveva andare a Pirelli, è venuto. Beh, l'hanno votato i bolognesi, non è che l'hanno dovuto ingoiare così. Però guardi, lui ha fatto quella dichiarazione che lei riportava ieri, dicendo che lui si vuole avvicinare al figlio. D'accordo che lei, Cruciani, ha detto che andando a Strasburgo è meno impegnato. Però io mi rivolgo anche al Partito Democratico della Liguria. Noi abbiamo bisogno di rinnovamento. Silvestroni ha fallito, perché non c'è questo rinnovamento. Allora, siccome di prima persona lui aveva detto che si voleva avvicinare alla famiglia, lui stia vicino alla famiglia e lasci il posto a un altro. Ma guardi che ci sono mal di pancia diffusi in quel collegio elettorale per la presenza di Cofferati, da quello che si legge dai giornali. Non è che siano molto contenti i dirigenti locali, Diciamo appoggerà questa candidatura, farà un male a tutto il movimento nazionale del Partito Democratico. Noi abbiamo bisogno di rinnovamento. È stato un grande Cofferati, perché il sindacato, lei mi insegna che la forza è più forte al paese, nel paese, però ha fatto la sua parte, che lui stia vicino giustamente a suo figlio. E ho capito il suo ragionamento. Un sito, tra l'altro oggi su Repubblica, caro Mauro, c'è un articolo in cui si riporta che l'associazione L'Altra Informazione, che è stata una spina nel fianco a Bologna di Cofferati, riporta una conferenza stampa del 9 ottobre scorso, data in cui Cofferati annunciò la sua rinuncia a correre per il secondo mandato di sindaco. Scelte personali, spiegò in pubblico, eccetera. A un certo punto gli chiedono: ci manderà una cartolina da Bruxelles? Risposta di Cofferati: non ve la mando neanche da Roma, se andassi a Roma sarei cialtrone e io non sono un cialtrone, e ancora, se andassi in Europa potreste dire che sono un ciarlatano. Però non c'è conferma di questa cosa qua. Sarebbe certamente incredibile se avesse pronunciato queste frasi e poi accetta la candidatura come capolista alle europee. La ringrazio Mauro, fra poco abbiamo i TG, però c'è il tempo per un intervento da Treviso di Fiore. Buonasera, dottor Cusciano. Niente, io volevo portare una testimonianza. Io sono un abruzzese e risiedo a Treviso. Negli anni '80 ho lavorato come autista all'interno del tunnel del Gran Sasso, a portare fuori i materiali inerti. Bene, questi materiali inerti, la Gogefar, gli ingegneri della Gogefar ci impedivano di adoperarli come calcestruzzo. Però questi materiali dopo sono stati adoperati per costruzioni civili. E allora io dico, come mai questi ingegneri impedivano l'adoperarsi di questi materiali? Guardi, francamente non le so dire, però, Fiore, perché non ne ho idea. Esibito, noi di Berlusconi vediamo soprattutto la testa, i copricapi che vengono messi, se qualcuno ha visto le fotografie del casco da pompiere sulla testa del Presidente della Repubblica e vede sulla testa di Berlusconi e vede la sostanziale differenza tra due forme della politica e quindi due corpi diversi. Sulla testa di Napolitano non ci stava bene, sembrava che avesse già qualcosa nel capo, invece Berlusconi se l'è infilato perfettamente. Direi che questi sono dei piccoli segnali però che ci dicono di un atteggiamento molto rilassato. Berlusconi è sempre in forma, ecco, in forma nel senso di si mette nelle forme delle situazioni, insomma indossa copricapo da ferroviere piuttosto che da pompiere, è una grande mascherata. Senta, poi in mezzo alla gente ha rispolverato il maglione. Questo che tipo di segnale è? Io tanto non ho la televisione, vedo le cose solo su internet, ho visto le fotografie e qualche filmato su internet. Mi colpisce il fatto che si veste di nero, che è un po' la divisa, degli artisti. Non ha il dolce vita tipico, siamo anche probabilmente in una stagione che non lo impone. Sembra vestito come un prete, gli manca solo il collarino che non si mette, non può metterselo, però del sacerdote ha qualcosa. Io direi che la figura è dello sciamano, ecco, del santo. L'Italia è il paese dei santi protettori, non esistono tanti santi locali come esistono in Italia, insomma ogni campanile ha il suo santo, ogni frazione, ogni località, ecco. San Silvio è il santo nazionale che rappresenta la località dei santi. Grazie a Marco Belpoliti. Il corpo del capo, editore Guanda. Ci sono molte foto ed è una storia fotografica di come Berlusconi sostanzialmente ha utilizzato ed è anche il suo corpo nella politica. Andiamo a sentire il primo, Paolo Dall'Aquila. Buonasera. Buonasera, salve. Dica. Niente, io volevo raccontare, inserirmi negli argomenti che state già trattando, a proposito delle del risparmio che si fa sulle costruzioni. Ho appena fotografato delle case, io sto tornando all'Aquila, cioè o meglio, sono andato via dall'Aquila un'ora fa e adesso sto nei pressi della costa. Lei è aquilano? Sì, sono aquilano e sono tornato all'Aquila perché torno praticamente tutti i giorni. La sua casa? La notte sto lì. La casa è inutile parlarne. Dove si trova o dove si trovava? Si trova nella periferia di L'Aquila. Crollata, parecchio lesionata? Non è crollata, ma molte lesioni. La struttura ha retto, ma bisogna verificarla perché poi bisogna vedere se... Lei non era lì al momento del terremoto? Sì, come no. Sì. Come no. Lei, quarto la sua piano, famiglia, da solo? Tutti quanti, con i bambini anche, che abbiamo dovuto portare giù. Anzi, sono scesi da soli per le scale, 5-7 anni, sono andati giù più veloci di me. Beh, insomma, rispetto ad altri siete stati sicuramente fortunati. Assolutamente, no? Assolutamente fortunati, possiamo ritenerci sicuramente fortunati. Dove, però, dove vi trovate adesso? Adesso ci troviamo a Scerno di Pineto. In provincia di Teramo. Sul mare? Sul mare, sì, siamo proprio sulla costa, sì, siamo da una mezza giornata qui, perché fino a ieri siamo stati all'Aquila, abbiamo pernottato in macchina tentando anche di fare antisciacallaggio sotto le nostre abitazioni. Però ma davvero, davvero questo fenomeno degli sciacalli è così diffuso come viene descritto? Si sono avvicinati ladri anche o sciacalli anche da voi? No, diciamo che in queste ronde che abbiamo fatto noi, ma diciamo più che altro ferme sotto le nostre abitazioni, non se ne sono visti, anche se si vedono girare persone strane. Per esempio oggi con una moto fuori strada c'era un ragazzo che è passato 3-4 volte con una tuta da sembrava della protezione civile, però passava velocemente e non solo, ma quando poi ci ha visto fare capannello e indicarlo, accelerato, è andato via con uno zainetto che veniva da una strada, da una stradina di campagna, dove però in fondo a questa strada c'è una casa, ma chissà, insomma, potrebbe essere solo un sospetto, come potrebbe essere uno sciacallo, un vero sciacallo, insomma. Ma ancora avete molta roba dentro casa, non siete rientrati a portarla via, almeno le cose più preziose, le cose dunque più nelle care. Case diciamo è molto molto pericoloso entrare, però siccome sono le nostre case ci avventuriamo sperando che non ci siano altre scosse, ma spesso succede che invece le scosse avvengono perché sono talmente frequenti che... Comunque ancora lei non si fida a riportare la sua famiglia là, evidentemente, no? No, io ho guardato la mia casa, l'ho scrutata millimetro per millimetro dall'esterno, cioè che non la mia casa, il palazzo. Perché lei fa il geometra, tra l'altro, no? No, io sono geometra di studi, ma non esercito la professione, quindi sì, sì. Diciamo non sono come dire dentro determinate logiche o tecniche attuali, però le conosco come conoscenza, capito, di studi e come curiosità poi anche seguente agli studi, insomma, ma diciamo che le tecniche di progettazione, almeno per quando mi sono diplomato io, sì, sono semmai migliorate, ma non sicuramente peggiorate, per cui se io verifico che in un pilastro ci sono 4 ferri anziché 16 soltanto messi ai bordi del pilastro, un pilastro peraltro 30-30 in una casa di 3 piani, e non ci sono le staffe, non ci sono le gibriglia, cioè non c'è nulla di quello che io ho studiato allora. Ma questo lei l'ha verificato, Paolo? Certo, l'ho anche fotografato, perché poi io sono fotografo e ho incontrato proprio oggi, mentre mi aggiravo per le case a catturare queste immagini, un mio ex compagno di studio, ora ingegnere, che tra l'altro sta lavorando e collaborando con la Protezione Civile per dare inizio all'inchiesta che sta, credo, uscendo oggi. Mi ha detto: guarda, fotografami tutto quello che vedi qui, perché è disarmante, non disarmato, cioè oltre che disarmato il cemento, è disarmante come quello che si vede, cioè ci sono case che sono venute giù per un piano intero, cioè gente che di notte alle 3.32 è scappata giù e non ha trovato l'uscita perché inconsapevolmente era ancora al primo piano, ma era già sul piano strada, perché gli è crollato proprio tutta la parte di sotto, i pilastri si sono diciamo tagliati all'altezza del primo piano, si sono allargati e la casa è venuta giù, per fortuna dritta, e ci sono almeno 3 casi di questo genere. Una di persone che si sono trovati direttamente per strada, cioè, mentre dovevano fare un piano. Il primo piano si è trovato direttamente su strada, quindi sono usciti dalle finestre a quel punto. Le macchine sono, io ho fatto una foto, si vede la targa di una macchina schiacciata sotto il solaio del primo piano, che sta a 20 centimetri dal piano, ormai dalla terra, dall'asfalto del piazzale esterno. Cose che allucinanti, con i pilastri spinti fuori e tagliati e da cui fuoriescono i ferri, e questi ferri sono 4, cioè sono 4 ferri nei 4 angoli del pilastro, senza staffe, o se ci sono stanno a 50 centimetri, 70, 80 centimetri l'una dall'altra, quindi come se non esistessero. Dunque tutto questo secondo lei per costruzioni fatte in maniera approssimativa, materiali forse scadenti, sicuramente certo, non certo. Fatte a regola d'arte? Cioè, assolutamente non fatta a regola d'arte, e con taglio di materiali, taglio di quantità di materiali che sommate per il numero di costruzioni che vengono realizzate, chiaramente creano un profitto maggiore per il costruttore. Mancanza di professionalità da parte del direttore dei lavori, mancanza di professionalità da parte di poi a chi ha eseguito i collaudi, mancanza di professionalità in tutta la filiera che c'è dalla progettazione alla realizzazione. E questa è una cosa gravissima, e questa è una cosa che poi viene, si riscontra e riscontreranno, io spero che verranno trovati colpevoli, anche lì, anche nell'ospedale, dove io anni fa partecipai a un concorso per il quotidiano Il Centro, racconta la tua città, e io lo feci con le fotografie, perché appassionato e amante della fotografia, e in qualche caso l'ho anche professata come professione la fotografia, ho fotografato e ho le foto, anzi ormai le foto non ce l'ho più perché stanno seppellite da qualche parte dentro casa, insomma, ma raccontai la città con questo titolo: L'Aquila, città cantiere, città incompleta, perché molto spesso anche sull'ospedale sono uscite cose non esattamente corrette. L'ospedale è un progetto che risale a 30 anni, lo hanno inaugurato nel 2000, ma risale al 68 la progettazione, è andata avanti la realizzazione per 30 anni, e al di là del fatto che probabilmente anche lì ci sono delle sottodimensionamenti, il progetto è di concezione vecchia, anche se poi paradossalmente un ospedale a 2 piani potrebbe essere di concezione nuova, perché in una zona sismica meno si sviluppa in altezza e meglio è, però in effetti poi quelle strutture sono rimaste esposte agli agenti atmosferici per anni, senza coperture, senza protezione, perché si sono alternati 3 o 4 ditte che nel frattempo sono fallite, l'hanno abbandonata, poi è passato l'appalto ad altri, così come si costruiva in quegli anni con varianti che portavano soldi ai politici, i quali promettevano di poter realizzare per raccogliere la loro clientela, dicevano che si realizzavano opere ma senza soldi, senza copertura finanziaria, quindi si partiva con le prime realizzazioni. Ma sicuramente metterci 30 anni per costruire un ospedale non dà garanzie di sicurezza e di scelta dei materiali giusti, insomma. La lunghezza del periodo di costruzione si accompagna anche allo scarso controllo poi della qualità. La ringrazio molto, Paolo, di questa telefonata. Lei sta rientrando sulla costa a Pineto? Sono al parcheggio adesso del Resi, però mi consenta una sola cosa? Sì, velocemente. Velocemente, sì, io mi sono divertito oggi a fotografare tutte le case in vendita, ce ne sono tante all'Aquila, che riportano sulla promozione case in vendita altissime rifiniture. Le ho fotografato tutte quelle che poi a fianco hanno la struttura lesionata, rotta. Allora io proporrei una cosa a livello nazionale, io volevo farle anche su Facebook, adesso vedrò di attivarmi, ma già se vi attivate voi sarebbe una grande cosa. Cioè di mettere al bando tutti i costruttori che pubblicizzano queste vendite, queste case, che è dimostrato perché sono i cartelli attaccati alle loro case in vendita, invendute ancora fortunatamente, ma non tutte purtroppo perché qualcuno le ha acquistate, che non sono realizzate così come dicono, ma sono già crollate prima ancora di essere vendute, case finite 6 mesi fa, quindi fare una lista, allora questo chi l'ha realizzato? Tizio e Caio? Ok, Tizio e Caio non costruirà più case, non potrà più vendere lo case. Lo faccia Paolo. Io lo farò, io spero però che anche voi lo facciate. Questo è l'appello e la proposta. Se abbiamo il materiale per farlo, sicuramente. La ringrazio. 20:40 800 24 00 24. Abbiamo dato spazio a questa telefonata perché comunque insomma telefonate dall'Aquila di persone che sono state testimoni di quello che è accaduto sono sempre importanti. Tonino, provincia di Potenza, buonasera. Caro dottore, buonasera. Buonasera. Volevo soltanto dirle se lei mi può dire quello che vuole, basta che lo dica solo lei e non anche il suo clone che è dietro e che risponde con un'altra voce, dunque abbassi la radio, grazie. Sì. Eccoci. Questo già l'ho fatto. Grazie, dica pure. Volevo chiederle soltanto se come Cimoli che ha, come lei ben sa, preso 600.000, no, non dico se non so. Non la sentiamo più Tonino, lei ci voleva parlare di cosa? Ancora dello stipendio di Cimoli quando è andato via dalle Ferrovie dello Stato? Sì. No. Non la sentiamo, la sentiamo male. Giovanni da Udine, buonasera. Buonasera. Dica. Io sono un 39enne che è di Udine e all'epoca del terremoto del 76 ho vissuto in prima persona questo dramma, questo disastro insomma che è accaduto qui in Friuli. Adesso mi ha colpito molto vedere tutte queste trasmissioni che parlano dei terremotati e condivido il fatto che le TV vadano a intervistare anche le persone che hanno subito. Chiedo scusa perché sono emozionatissimo, parlo un po' male. No, vada pure. Ci sono delle persone che dicono non è giusto che le TV vadano lì dentro le tende, intervistare le persone eccetera. Sì. Io penso invece che sia una cosa anche abbastanza bella perché queste persone non si sentono sole. La cosa però più importante secondo me che volevo dire adesso è che sarebbe giusto, è un appello che faccio alle persone che avranno il compito di destinare i vari fondi per la ricostruzione, che queste persone che hanno perso la casa vengano aiutate integralmente, non come è successo all'epoca la mia famiglia che è stata aiutata con una piccola percentuale sulla cifra della ristrutturazione della casa, perché quel fatto lì ci ha veramente rovinati all'epoca. Giovanni, io non ricordo quanto fu l'aiuto per la ricostruzione della casa, so solamente che in questi giorni molti hanno esaltato il modello Friuli di ricostruzione. Credo sia a livello architettonico, sia a livello di tempi, credo anche a livello di risarcimenti alle famiglie. Adesso lei ci sta dicendo che in realtà il governo di allora non diede un grande aiuto alle famiglie, la cosa mi risulta nuova però. Guardi, le dico subito, la ristrutturazione dell'abitazione nostra costò veramente tantissimi soldi perché era una casa vincolata a certi, cioè non abbiamo potuto buttarla giù e ricostruirla praticamente, che sarebbe costato meno. Sì. Quindi ristrutturandola ci abbiamo speso su veramente una valanga di denaro che era indispensabile perché abbiamo dovuto ricostruirla con norme antisismiche e questo fatto naturalmente ha fatto lievitare i costi. Adesso io la percentuale No, però Giovanni non possiamo ragionare sul caso singolo. Io credo che la ricostruzione di una casa in questi casi sia a totale carico dello Stato, per cui poi magari può succedere che in certi casi particolari, come sarà stato il suo, ma anche chi è stato colpito abbia dovuto mettere del denaro. Certamente una perdita di soldi c'è comunque in ogni caso in questi passaggi, in questi frangenti, però francamente che ci sia voluto anche un contributo da parte delle singole famiglie per la ricostruzione dell'abitazione mi risulta nuovo. Io so che le ricostruzioni in questo caso sono tutte quante a carico dello Stato, anzi si discute appunto della possibilità di introdurre per esempio un'assicurazione. Giovanni, prego. Guardi, io spero che sia vero quello che dice lei, so che purtroppo... Beh, non so, i conti della sua famiglia li conosce lei, evidentemente. I conti sono stati veramente, cioè ci ha rovinati e io spero veramente che queste famiglie che hanno perso tutto vengano aiutate sì. Integralmente. No, ma io credo di sì, da quel punto di vista penso di sì, cioè dal punto di vista della ricostruzione dell'abitazione o di una nuova abitazione o quello che è. Sul resto è evidente che se una famiglia ha perso un sacco di soldi, denaro, in questi casi i conti sono sempre in rosso, non c'è dubbio. Siamo in compagnia di un altro ospite che è Alessandro Martelli, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Alessandro Martelli, responsabile della sezione prevenzione rischi naturali e mitigazione effetti dell'ENEA, e anche docente di costruzione in zona sismica alla facoltà di architettura dell'Università di Ferrara. Secondo quello che ha scritto Repubblica, credo ieri, lei è anche l'autore della lettera al ministro Matteoli per non fare ulteriori proroghe alle norme antisismiche, è così Martelli? Sì, sono autore di una delle lettere al ministro Matteoli e al governo di non fare ulteriori proroghe. In realtà sono state scritte numerose lettere da tutte le associazioni del settore. E come è andata a finire questa vicenda? Prego? Certo, prima del terremoto naturalmente. Sì, in febbraio. Gennaio alcune lettere. Sì, questa vicenda come è andata a finire? Ma la vicenda si è risolta ieri sera, almeno diciamo non totalmente, perché va poi concretizzata la cosa, cioè la Commissione Ambiente, Territori e Lavori Pubblici della Camera ha approvato una risoluzione all'unanimità, una risoluzione per il governo che prevede l'entrata in vigore in tempi molto rapidi della nuova normativa sismica in modo obbligatorio e nelle more, perché qualche furbo può purtroppo sempre rimanere, delle regole che praticamente rendono inutile utilizzare o troppo costoso utilizzare le norme ormai superate. E lei dice che bisogna concretizzarla, significa che è solamente una... Allora, la concretizzazione si tratta, una risoluzione per il governo è un impegno per il governo a prendere, a inserire in una legge un articolo che preveda questo. Certo, il sottosegretario certo. Mantovani si è impegnato ad inserirlo nel decreto, nel disegno di legge sulla casa. Senta Martelli, sì, speriamo naturalmente. Bisogna dire che le proroghe vigileremo, sentiremo, ascolteremo e cercheremo di capire sempre se queste cose vengono attuate immediatamente oppure ci sono ulteriori slittamenti. Bisogna dire che le proroghe non è che sono state decise solo da questo governo, anche precedenti governi. No, io non sto facendo una critica a questo governo. Diciamo, sono iniziative fortunatamente ormai limitate a pochi settori. Cioè chi non conosceva esattamente il comma, l'articolo di legge non poteva sapere di che cosa si trattava. Si trattava di un emendamento inserito nel mille proroghe in cui c'era di tutto e di più. Insomma. Certo, poi certo. Il mille proroghe è stato approvato con la fiducia al Senato, quindi non era ritoccabile. Di conseguenza è andato con la fiducia alla Camera e nonostante il ministro Matteoli personalmente, perché l'ho incontrato e mi ha ribadito quello che poi ha scritto, perché oggi su Repubblica è riportata sì. Anche un stralcio della lettera del ministro, di essere anche lui nettamente contrario, purtroppo questo ulteriore proroga è passata, ma non è una questione di questo o di quel governo, perché anche durante il governo Prodi sono state fatte queste proroghe. Questa pratica delle proroghe? Cioè, si parla di pressione della lobby, dei costruttori per impedire queste cose. Insomma, cosa c'è dietro secondo lei? Ma inizialmente c'era, siccome la nuova normativa sismica cambia radicalmente l'impostazione precedente al 2003, la nuova normativa sismica nasce con l'ordinanza 3274 del 2003 subito a seguito della tragedia di San Giuliano di Puglia, no? Tanto sì, per intenderci. Sì, certo. Ecco, con questo nuovo assetto normativo cambia completamente l'approccio alla progettazione, diventa un approccio da prescrittivo che era prima, cioè regolette, il progettista mette dentro un numero al calcolatore, viene fuori un risultato, quello è il risultato di progetto, può anche non avere nessun senso fisico, disabituava anche il progettista a pensare, a valutare il problema dal punto di vista fisico. La nuova normativa invece ha un approccio di tipo prestazionale, si dice al progettista, tu devi raggiungere queste prestazioni per il tuo tipo di struttura, strategica o no, se in zona fortemente sismica o no, e ha a disposizione un certo numero di metodi e deve scegliere quello opportuno. Quindi è un approccio poco, che era poco gradito anche a molti progettisti inizialmente, quindi inizialmente ci furono delle resistenze, la proroga, diciamo, inizialmente fu lasciato un certo periodo di tempo, non mi ricordo se erano 18 mesi, che era corretto perché il progettista doveva abituarsi. Però i tempi ormai da maggio 2003 sono passati, quindi c'è tempo, non c'era per abituarsi, assolutamente nessuna ragione né per questa proroga né per quelle precedenti. E intanto è uscita la notizia qualche minuto fa, PM assoluzione dei quattro romeni fermati per sciacallaggio. Bisogna andare un po' a verificare questa cosa qui. Senta Martelli, un'altra cosa le voglio chiedere, sempre oggi su Repubblica, poi pare che sia stata avviata anche un'inchiesta della magistratura, è uscita questa storia del cemento fragile delle case d'Abruzzo, riempito, sembra, naturalmente, vedremo, verificheremo, ma ci sono i primi sopralluoghi che lo proverebbero, cemento riempito di sabbia di mare. Lei ci crede a questa storia? Beh, diciamo, è leggermente troppo generalizzata la questione, insomma. Effettivamente in Italia abbiamo diversi problemi che hanno portato a realizzazioni poco in grado di reggere il terremoto. Una di questi è senz'altro la cattiva costruzione. Ho sentito prima, venendo a casa, quel tecnico del Ministero delle Infrastrutture che diceva cose molto giuste. Sì, io credo sì. Che il problema maggiore non sia tanto nella progettazione, sì, anche nella progettazione, ma soprattutto nella realizzazione, con il modo in cui vengono fatti gli appalti in Italia, che portano a scegliere delle imprese che sulla base solo di un'offerta economica molto bassa, che poi non sanno come sostenere, e i controlli che probabilmente sono non ottimali, sia da parte del direttore dei lavori, sia anche da parte di molti collaudatori che sono un po' superficiali. Ecco, però non è tutto lì il problema. Sabbia di mare, non lo so, in Abruzzo sicuramente, io personalmente ho visto nel passato numerose costruzioni in cemento armato che avevano una scarsissima qualità dei calcestruzzi e una scarsissima armatura. Questi fatti esistono. Se poi la questione, l'Aquila è un territorio molto sismico, insomma, occorre veramente valutare in maniera più dettagliata, cosa che non è possibile fare in questo momento finché non si affronteranno, diciamo, gli esami della stato delle strutture, occorre esaminare la situazione. Certamente ci sono delle indicazioni abbastanza evidenti che la costruzione quantomeno non era ottimale per molte strutture, ivi compreso l'ospedale, di cui a voi avete parlato prima, ho sentito anche questo pezzo. Sì, ma ormai se ne parla da diversi giorni. Anche naturalmente bisogna poi verificare sul terreno, e lei certo, lo sta verificando sul terreno. Però quindi l'impressione è quella, come potrebbe essere in altre parti d'Italia, non solo in Abruzzo. Sì, ma non stiamo parlando dell'Abruzzo, perché stiamo parlando di un problema italiano che riguarda più della metà del costruito. Certo. La ringrazio molto, buona serata. Prego, grazie, buonasera. Ad Alessandro Martelli, che è docente di costruzione in zona sismica all'Università di Ferrara. 800 24 00 24, fra poco avremo il GR delle 21. Ci sono diversi ascoltatori in onda, c'è Aaron dalla provincia di Firenze per primo, buonasera. Intanto vi ripeto la notizia di pochi istanti fa che riguarda lo sciacallaggio, ed è una notizia importante. Il pubblico ministero dell'Aquila, Fabio Picuti, ha richiesto l'assoluzione per i quattro romeni fermati questa mattina per l'accusa di tentato furto e ricettazione all'Aquila. Per uno di essi è stata chiesta la condanna a 8 mesi per un'accusa minore, possesso di armi da scasso. Lo ha riferito all'avvocato dei quattro fermati, Gianluca Totari, sottolineando che tutti hanno fatto il loro dovere fino in fondo. L'arresto, secondo me, è stato tempestivo, con un processo immediato. Noi il nostro dovere lo abbiamo fatto. Vabbè, poi approfondiremo meglio questa storia. Allora, Aaron, dica. Salve, io volevo parlare di 3 argomenti velocemente. Il primo argomento riguarda la trasmissione di Santoro di ieri sera, che lei ha detto che erano polemiche un po' pretestuose. Ma secondo me, più che polemiche, hanno fatto parlare anche delle persone che avevano delle critiche da fare all'organizzazione dei soccorsi, e come è giusto che parlino quelle che hanno detto che è stato tutto fatto bene e velocemente, hanno diritto di parlare anche quelli che hanno da fare delle critiche. Sì, no, chi dice, ma infatti io ho detto, non ho dato assolutamente nessun giudizio negativo sulla trasmissione di Santoro, ci mancherebbe altro, no? Nella maniera più assoluta, diciamo che C'era uno spirito molto critico nei confronti di quello che poteva essere fatto prima e anche un po' di come si sono avviati i soccorsi, eccetera, eccetera. Ma va benissimo, per carità. Ma... cioè, mi sembra una cosa normale. Libero ha già definito subito sciacallaggio questo, su in prima pagina, quello di Santoro. Mi sembrava sciacallaggio, mi sembravano delle critiche ben argomentate, poi ognuno poteva pensarla a favore o contro, poi questo è quello che ho visto io. Il secondo argomento riguarda il sottosegretario Crosetto, che ieri sosteneva che sì, è bello poter mettere tutte le scuole a norma antisismica, ma purtroppo le casse dello Stato non lo permettano. Però subito dopo sostiene che il ponte sullo Stretto di Messina non è in conflitto con questa possibile ristrutturazione delle scuole. Ma se i soldi non ci sono, cioè se li spendi nel ponte sullo Stretto, non li puoi spendere evidentemente nella ristrutturazione delle scuole. Questo mi sembra una cosa, un ABC normale. È come se io non lo può chiedere a me, perché evidentemente non sono d'accordo, perché non si possono fare discorsi del genere. Sposto una partita di bilancio da una parte, la metto dall'altra. Insomma, la storia dei finanziamenti al ponte sullo Stretto di Messina è talmente lunga e tortuosa che non si può fare questo ragionamento. Togliamo i soldi da lì e mettiamoli nell'Abruzzo. Insomma, mi sembra, a me l'accostamento che è stato fatto in questi giorni, non perché sono fissato sul ponte sullo Stretto di Messina, ma l'accostamento che viene fatto di continuo, strumentale, tra il ponte sullo Stretto, i soldi del ponte sullo Stretto e il terremoto, mi pare una follia. Però insomma, una cosa tipicamente italiana, non c'entra niente come argomento, eppure viene tirato in ballo perché è facile sparare contro il ponte sullo Stretto. Allora perché non si possono prendere i soldi dalla TAV? Non lo capisco. Roberto Arditi, direttore del Tempo, buonasera. Eccomi, buonasera. Ciao Roberto. Allora, come sarà il titolo domani del tuo giornale? Il titolo di domani sarà fatto da due parole con in mezzo un punto. Abbiamo scelto questa formula: il dolore, punto, e il coraggio, perché le storie di questi giorni sono storie di grande dolore, ma sono anche storie di grande coraggio, coraggio di chi ce l'ha fatta, di chi è sopravvissuto, di chi è sbucato dalle macerie, di chi ha aiutato e sta aiutando tutte queste persone che soffrono, anche compiendo tanti piccoli atti di coraggio, di cui tra l'altro nemmeno noi giornalisti o telecamere o microfoni o portacchini riusciremo mai ad accorgerci, perché sono documentari, certo. No? Gesti di coraggio di un attimo, in cui il coraggio ci vuole tutto, e che poi restano consegnati però a una storia che sanno solo quelli che stavano lì in quel momento. Ho notato una cosa, credo l'abbia scritto questa mattina un giornale riformista tra gli altri, forse questo qua è, forse, perché ancora non è finita, anzi siamo solo agli inizi e speriamo che anche il post terremoto sia così, si tratta del primo terremoto o del primo grande evento drammatico della storia italiana con pochissime polemiche, comunque senza polemiche, a parte la storia di Giuliani e alcune cose minoritarie, insomma forse marginali, però per esempio tra le forze politiche si è notato una, a parte piccolissime anche là, c'è stato un piccolo battibecco sugli aiuti internazionali subito finito, una grande unità nazionale. Questo ritengo sia una cosa positiva. È certamente un fatto positivo, e se vuoi la mia opinione è anche legato al fatto che questo drammatico terremoto abruzzese arriva ad aprile del 2009, cioè arriva dopo alcuni mesi nei quali la comunità nazionale italiana e più in generale quella internazionale ha realizzato che viviamo un momento difficile, che è economicamente difficile, che rischia di diventare, se già non lo è, socialmente difficile, e che quindi, diciamo così, c'è poco da perdersi in chiacchiere o polemiche fuori luogo, e c'è molto da rimboccarsi le maniche, sia nel raddrizzare una situazione economica difficile, sia nel reagire a un terremoto e a una tragedia come quella dell'Aquila di questi giorni. Cioè, secondo me è il clima generale intorno a noi, e questo è positivo, che caccia via le polemiche come un fastidioso e inutile orpello di cui in questo momento nessuno sente il bisogno. E infatti anche sulle cose che sono sotto gli occhi di tutti, le costruzioni magari fatte male, eccetera, credo che ci sia una volontà, speriamo poi si traduca in cose concrete, perché insomma le parole sono una cosa, i fatti sono altri, credo ci sia la volontà finalmente di svoltare da questo punto di vista sulle norme antisismiche, su un maggiore controllo sul tipo di costruzioni, su calcestruzzi, eccetera, eccetera. Questo è un tema che personalmente trovo molto importante, perché in qualche misura ci dà il lato negativo di una certa cifra nazionale. Noi siamo un paese dalle regole perfette, ancorché cartacee. Noi scriviamo leggi fantastiche, anche se scritte spesso in un italiano un po' zoppicante. Incomprensibile. Sì. Ma è poco comprensibile. Comunque abbiamo leggi buone per tutto, anzi molto spesso su una stessa materia di leggi riusciamo ad averne anche 10 o 20 non troppo capaci a volte di andare d'accordo con loro, tra loro. Comunque insomma abbiamo un sacco di leggi nazionali, leggi regionali, regolamenti, autorità, istituzioni che controllano tutto quanto. Dopodiché, di tutta questa impressionante mole di regole, noi ne facciamo un uso spesso virtuale. Ora, anche qui, ancora pochi secondi, sul tema delle costruzioni, io ho sentito e letto cose demenziali in questi giorni. Per esempio c'è chi ha detto in California per un terremoto di questo genere non avrebbe avuto... insomma, la California è una realtà geografica la cui urbanizzazione è tutta del XX secolo. No, certo. Insomma, l'Abruzzo no. Quindi non si può paragonare Santa Monica Paganica, insomma. Ecco, bisogna essere seri nel dire le cose che diciamo. Allora, noi siamo un paese che ha una storia di urbanizzazione di millenni e in una città come L'Aquila sono crollati edifici che hanno visto un'azione dell'uomo divisa nei secoli. Quello che poi dobbiamo discutere è perché tra questi crolli ce ne sono alcuni che sinceramente avremmo avuto il diritto di non vedere, penso alla casa dello studente o penso al semicrollo dell'ospedale, e queste sono le storie. Però da qui a dire che qualcuno può raccontarci che una città come L'Aquila con la sua secolare storia può reagire a un sisma come una città urbanizzata nel XX secolo, vuol dire che ci pigliamo in giro. Sono assolutamente d'accordo, ringrazio Roberto Arditi, direttore del Tempo di Roma, buonasera. Ciao. Grazie Roberto. A voi e buonasera, buona trasmissione. 21:17, 800 24 00 24, abbiamo il traffico, se non sbaglio non c'è il traffico, andiamo avanti fino alle 21:40, vi ricordo 800 24 00 24, tra poco un altro ospite, fra pochi istanti, fra pochi minuti, anzi, direttore di Europa Stefano Menichini, ascoltatori però, Angelo da Bergamo. Pronto? Sì, Angelo. Buonasera, dottor Gustani. Dica. Ascoltando la vostra trasmissione stasera, sentendo i vari interventi che ci sono stati, deduco che alla fine la storia si ripete continuamente. Dico questo in quanto praticamente telefono da una piccola valle qui della Bergamasca, dove nel primo dicembre del 1923 una diga si squarcia e fa 600 morti. La diga si chiama Diga del Gleno e praticamente la diga si è squarciata per l'incuria, l'avidità, la corruzione, il malcostume e la mancanza di ferro, cemento e quant'altro. Per cui dal 23 adesso sono... Lei dice la storia si ripete, dice lei. Ascolti, altri esempi le posso fare. Le parlo della provincia di Bergamo, che è tanto decantata per tante cose. L'anno scorso è stato aperto un nuovo tratto di strada qui da Bergamo che sale in Valseriana. Sì. E le gallerie quando piove si allagano. Cioè, io ho amici che lavorano in aziende, diciamo per in giro per il mondo, costruiscono gallerie, viadotti e siamo rinomatissimi per quello che facciamo, e quando le facciamo a casa nostra non riusciamo mai a portare a termine delle cose come le facciamo da altre parti. Vabbè, adesso non è che la qualità di tutte le costruzioni, sia stradali che di edifici in Italia, sia così drammatica. No, ci possono così, essere, però, allora, no, Cusani, ci possono essere casi. Orte Ravenna, cosa mi dice? Non lo so, me lo dica lei, perché io non è che non faccio il tecnico. No, ma non so se c'è mai passato. Sì, sì, ci sono passato, come no? Avrà visto in che stato la strada. Continuamente lavori in corso, certo. Lavori in corso. Ponti che sono da disfare, da rifare. Secondo lei è per la qualità dei materiali, per lavori fatti male? Soprattutto ma sì, per questo? Sempre. Ascolti, ma poi io quello che mi domando è questo. Allora, i controlli di chi anche dopo deve controllare le strade, queste cose qui. Altro esempio le faccio: nella mia valle è stata aperta da 2 anni una strada che era un importante collegamento che bisognava fare. Allora l'inverno, quando diciamo le temperature vanno sotto zero, questa strada sembra tutto un dosso, si alza perché non è stato fatto il fondo adeguato e il velo chiaramente fa alzare la strada, è tutto crepato l'asfalto e tutto, però dico anche chi praticamente si dedico ai controlli di queste cose qua, come mai nessuno fa presente alla provincia? No, ma il tema dei controlli è fondamentale. Angelo, la ringrazio. Guardando lo schermo di Sky leggo ultima ora Abruzzo, nuova forte scossa, non c'è nulla dalle agenzie di stampa per adesso. Ripeto, dallo schermo di Sky ultima ora Abruzzo, nuova forte scossa. Non so se abbiamo il vice direttore dell'unità in onda, ancora no, adesso lo chiamiamo. Dante dall'Aquila. Dante, buonasera. Dante, mi sente? Dante? Dante, buonasera, lei ci chiama dall'Aquila, le voglio subito chiedere una cosa io prima di ascoltare il suo intervento. Sembra ci sia stata una nuova forte scossa, è così? Io adesso sono uscito dall'Aquila, non l'ho sentita, c'è stata una intorno alle 5, l'ultima che ricordo. Sì, io. Sì, no, è una. C'è la notizia adesso data da Sky TG24, ma bisogna verificare di una nuova forte scossa. Vabbè, insomma, poi verificheremo naturalmente. Di cosa ci vuole parlare? Ma la mia testimonianza può essere quella, diciamo, che già abbiamo sentito. Io sono un po' scettico sul discorso sabbia nel cemento, lì l'Aquila è una città montana, portare la sabbia addirittura lì è antieconomica, è pieno di cave, quindi non lo so. Sicuramente colpisce il fatto che ci sono stabili perfettamente in piedi, anche del 500, del 600 e altri in cemento armato che sono andati giù come fossero fatti anche in muratura. Casa dei miei genitori in muratura è perfettamente intatta, vicino all'epicentro e quindi probabilmente ben eseguita. La città, girare in città è sconvolgente, comunque è controllatissima, episodi di sciacallaggio non lo so, era molto molto controllata, questa è la testimonianza che posso dare. Cioè lei dice che poi alla fine questo sciacallaggio è molto limitato, dice. Limitatissimo, i controlli sono molto severi, non si entra in auto in città, quindi chi è a piedi viene immediatamente identificato, e certo di notte forse qualcosa può sfuggire, però... Certo. Questa volta se si deve fare una critica veramente non si può fare, perché sia i soccorsi che tutto il resto, tendopoli, lì sembra tutto perfettamente agibile e funzionante, mancherà qualcosa è ovvio, però insomma si può dire che tutto ha funzionato bene. Io poi mi riallaccio. Senta, la sua casa Dante? Perfetta, non c'è. Lei in che zona abita? Diciamo che siamo distanti da Onna 8 chilometri, per farle capire. Il paese più devastato dove mia nonna è uscita a 96 anni indenne da una casa distrutta a destra e a sinistra, pareti che si reggono e poi si vede il cielo, ecco, per farle capire la devastazione lì è totale. Io sono stato lì ancora oggi con i vigili, siamo entrati a prendere delle cose e lì veramente c'è da mettersi paura, però è comprensibile perché sono pietre e breccia, lì non c'è cemento, lì non c'è nulla. Quindi che siano cadute giù è perfettamente comprensibile. È chiaro, sono condizioni di 200-300 anni. Quindi. No, certo. Va bene, grazie a Dante che ci chiama dall'Aquila. Ripeto, questa notizia che vedo dallo schermo di Sky TG24, ultima ora, Abruzzo, nuova forte scossa, però non ci sono ancora conferme, a meno dall'agenzia di stampa che sto vedendo in questo momento. Andiamo con un ospite, Giovanni Maria Bellu, che è vice direttore dell'unità. Buonasera. Buonasera. Eccoci qua. Allora, parlavamo prima con alcuni ospiti di una realtà, certamente, al di là di qualche piccola polemica che c'è stata all'inizio sugli aiuti internazionali e poi ancora sulla prevedibilità o meno dei terremoti, eccetera, mi sembra di poter dire che almeno in questi primi 5 giorni, poi bisognerà vedere successivamente nella fase post-terremoto, sia stato uno di quegli eventi rari nella storia d'Italia in cui le polemiche sono forse sotto traccia, meno forti, no? Poi certo c'è la storia del calcestruzzo, dei materiali utilizzati, insomma sono tutte storie, però insomma tra le forze politiche, io credo anche per merito certamente dell'opposizione e anche del Presidente del Consiglio, ci sia davvero un clima di unità nazionale che deve essere sottolineato e che è positivo. Sì, ma no, non c'è dubbio, ma io direi questo, che se davanti a un evento così tragico non si trovasse la capacità di creare un clima di unità davvero avremo già perso ogni residua speranza di diventare un paese normale, ecco. Voglio dire, no, ci mancherebbe. È chiaro che poi la verifica di questo clima la faremo nel tempo, e il tempo sarà molto lungo. Io credo che ci saranno alcuni indici per verificare se questo clima tiene. Uno sarà sicuramente la capacità da parte del governo, e io direi dei governi che si succederanno, perché probabilmente questa vicenda non finirà soltanto con i prossimi 4 anni, di accettare le critiche e di non trasformare, per esempio, le critiche in un pretesto per dire che si disturba il manovratore, per esempio. Ecco, questa è un'occasione. Poi c'è un'occasione molto vicina, ed è quella che riguarda la decisione sull'accorpamento del referendum elettorale con le elezioni. Sì, quello è molto importante, ne abbiamo parlato questa sera con Mario Segni, perché abbiamo notato una cosa che io ho considerato abbastanza scandalosa, il fatto che alcuni esponenti della maggioranza che prima dicevano no, non bisogna accorpare, pur essendo stati loro firmatari del referendum e avevano addirittura raccolto le firme, adesso, prendendo spunto tragicamente dai 300 morti dell'Abruzzo, hanno detto beh sì, forse è meglio risparmiare. Questo mi pare un po' incredibile. Il caso di Italo Bocchino è clamoroso, insomma. Diciamo, voglio dire, meglio tardi che mai. No, d'altra certo. parte, se è vero come è vero che c'è una disperata necessità di risorse economiche in una fase economica così complicata, davvero bisogna risparmiare su tutto. E qua, e questo risparmio, tra l'altro, non è un piccolo risparmio. Cioè, stiamo parlando di una cifra che c'è un dibattito, ma diciamo una cifra di circa 400 milioni di euro, sono tantissimi soldi. Ecco, e l'idea che una cifra del genere venga buttata per accontentare delle pretese della Lega, ecco, non, credo che sia un lusso che non si può permettere nessuno. No, tra l'altro questo valeva anche prima del referendum e del terremoto, questo bisogna dirlo, valeva prima del terremoto, a maggior ragione vale non adesso. C'è dubbio, non c'è dubbio. Un'altra cosa per concludere, ed è questa, ho apprezzato che... parte qualche caso naturalmente, non ci sono state molte polemiche da parte dell'opposizione, del Partito Democratico in particolare, ma un po' di tutta l'opposizione sulla presenza continua, sull'iperpresenza, ma iperpresenza non in senso negativo, di Berlusconi sui luoghi del disastro, cioè sulla presenza concreta del Presidente del Consiglio in tutte le fasi per coordinare conferenze stampa eccetera eccetera. Io credo che il fatto che non ci siano state polemiche su questa cosa qua sia un fatto da prendere in considerazione positivo, no? Sicuramente è stata una dimostrazione da parte dell'opposizione, appunto, di un grande senso di responsabilità. In queste situazioni bisogna assolutamente credere alla buona fede di tutti, e quindi io sono convinto che l'attivismo che il Premier ha dimostrato in questi giorni, quando si è presentato tutti i giorni in Abruzzo, e anche l'attivismo che stamattina hanno mostrato gli operatori che hanno seguito passo passo il Presidente del Consiglio durante il funerale, mentre tutte le altre cariche istituzionali erano compostamente sistemate in un'area loro riservata, ecco, io sono sicuro che questo attivismo proseguirà anche quando non ci saranno più le telecamere, ed assolutamente siamo obbligati a crederci, no, e questo anche ci consentirà, se così non sarà, di farlo rilevare ancora con maggior forza, ovviamente. Bene, grazie a Giovanni Maria Bellu, vice direttore dell'Unità. Andiamo allora a Teramo con Alessandro, buonasera. Buonasera, dottore. Dica. Niente, io volevo un attimino testimoniare una cosa importante per quello che riguarda la protezione civile, perché mi occupo di vigilanza privata e tra i miei clienti appunto ho la Regione Abruzzo per quello che riguarda la protezione civile, cioè gestiamo un magazzino enorme, lo controlliamo, insomma, durante l'anno. alle 3.33 c'è stato il terremoto. Le garantisco che neanche alle 4 da Teramo, già, chiedo scusa, verso le 4, le 5 meno 10, da Teramo già sono partiti i primi soccorsi per Aquila. Quindi è stato aperto il magazzino, sono state attivate tutte quelle procedure per far partire i primi soccorsi veri verso Aquila. Teramo Aquila hanno una distanza abbastanza limitata, quindi su questo voglio testimoniare proprio personalmente, perché insomma è giusto dire, no, certo, certo, quali sono le verità, insomma, dottore. La ringrazio. Poi, Alessandro. Per quanto riguarda, grazie, il calaggio, è vero quello che ha detto prima, è un fenomeno, sì, abbastanza basso, perché stiamo facendo anche questo noi. No, ma io immagino di sì. Poi è chiaro che i primi fenomeni vengono molto esaltati, tra virgolette, dall'informazione, no? Perché non ci si aspetta che in questi casi ci siano delle persone che addirittura da Roma vengono subito a rubare dentro le case. Ivo, provincia di Asti, dica. Sì, buonasera, dottore. Io ho chiamato perché volevo ricondurmi al tema dell'accorpamento referendum elezioni, di cui si è parlato più volte anche in corso di trasmissione, sì, oggi. Sì. Non cadiamo nell'equivoco, in quello che vogliono farci credere, che i nostri politici siano improvvisamente rinsaviti, onorevole Bocchino in testa. Si tratta di una cosa molto più banale, a mio parere, cioè c'è un disegno politico preelettorale da parte del PDL, che è partito già in Parlamento, abbiamo visto nei giorni scorsi, con le pressioni sulla rinuncia alle ronde, alla parte, sì, delle, sì, case, sì, sulle ronde. Poi successivamente abbiamo visto quello che è successo con la bocciatura dei centri di accoglienza. Che vogliono spingere sull'acceleratore su una cosa che dispiace alla Lega, che non piace alla Lega, dunque non c'entra niente il terremoto. In questa fase, per ottenere quel famoso 51%, che secondo me, così facendo, penso sia controproducente per lo stesso PDL. Ho capito, certamente questa è una, no, ma è un'interpretazione corretta, non c'è dubbio che la frase di Berlusconi di ieri rientra in un contesto più generale di guerriglia, tra virgolette, all'interno della maggioranza. Marco da Roma. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. La volevo intanto informare, una cosa breve, che il terremoto che c'è stato adesso, 21.07, era magnitudo 3.1, anche se molto superficiale, perché ecco una, sì, cosa insomma, che volevo dire era questa. Io ho ripreso i miei studi universitari, i vari proprio appunti semplici nel corso degli studi universitari di geologia, e alla fine si trova che terremoto all'Aquila del 1348, terremoto del 1461, cioè sono cose che nel mondo scientifico sono stranote. Per cui che significa questo? Che significa che ognuno fa il proprio lavoro e cerca, se uno poi vuole fare in modo che l'Italia, insomma, in un certo senso, come dire, salga un po' di livello, no? Anche nei confronti dei paesi stranieri, ognuno cerchi di fare il proprio lavoro, magari nel modo migliore possibile. Che significa? Esatto, che diciamo i geologi fanno i geologi e quindi cercano nella loro maniera di riuscire a trovare modi per prevenire i terremoti, ma in un certo senso anche l'informazione dovrebbe cercare di fare questo, e allo stesso modo l'amministrazione, eccetera eccetera. Significa che l'informazione è bene che dia delle informazioni precise, nel senso che come ho sentito ora, non è per fare una polemica sterile, però il direttore del Tempo adesso, questo terremoto non è disastroso, ma è disastroso per gli effetti che ha provocato, non per la forza del terremoto. È chiaro, ma gli effetti non sono, gli effetti si conoscono da, guarda, io ho fatto l'università veramente 20 anni fa. Sì, ho capito, Marco, non si può nascondere che siano disastrosi gli effetti. Il terremoto in sé non è... Esatto, esatto, sono disastrose le case che cadono. Allora il discorso. E concludo, diciamo, volevo dire solo questo: come si fa, come possiamo fare perché questo non avvenga? Cioè, praticamente i prossimi chi saranno? Perché il discorso è questo: tanto ci saranno dei prossimi, chi saranno? Sì. Non so, quelli del Vesuvio, 800.000 persone che sono a rischio. Cioè, cosa bisogna fare? Mi dica una cosa, ecco, mi dica una cosa, sì, che secondo lei bisognerebbe, esatto, fare da geologo. Bisogna fare? Ognuno faccia il proprio lavoro nel modo migliore, cioè l'informazione sia veramente informazione. Lasciamolo stare Giuliani, Radon, è inutile fare in modo che la gente, facciamo in modo che la gente cresca un po' di livello, cioè diamo delle informazioni specifiche, puntuali, senza creare... Ho capito, no, ma questo qua è un invito corretto, la ringrazio. Raffaele da Brindisi, poche polemiche senza fondamento, più informazioni invece puntuali, concrete, Secondo me ci vuole anche una grande opera di prevenzione culturale, anche esercitazioni da fare probabilmente nelle zone che sono più sensibili. Raffaele da Brindisi, prego, dica. Buonasera, dottor Cruciani. Io avevo chiamato per quanto riguarda quello che si ventila nell'aria di fare le assicurazioni per le abitazioni contro i terremoti. E dicevo lì alla signora del centralino, per quanto mi riguarda io la penso in maniera molto diversa, perché facendo una cosa del genere si andrebbero solo a far ingrassare le assicurazioni, che alla fine forse non pagherebbero neanche. Noi abbiamo un grande assicuratore che è lo Stato, nel momento in cui c'è il bisogno si è vista la solidarietà che con gli SMS si sono. Vabbè, ho capito, però questo pesa sul bilancio dello Stato. Il sistema delle assicurazioni forse pesa di meno sullo Stato e renderebbe più sicure le abitazioni, forse. Scusi, ora le faccio un altro esempio per quanto riguarda, per levare un po' dei dubbi su quanto riguarda l'uso della sabbia nei calcestruzzi. Io le parlo di circa una trentina di anni fa. Stavo facendo un piccolo recinto e avevo chiesto delle bitoniere di calcestruzzo per poter fare. Diciamo fare la trave sotto. Ecco, quando è arrivata a scaricare questo calcestruzzo, lo stesso principale, cioè il proprietario della bettoniera, diceva: guarda che massa cementizia. Per uno strano gioco del destino sono andato a lavorare un po' di anni dopo con questa ditta. Mi sono trovato la ghiaia, quella grossa, sabbia, quella di cava. E dall'altra parte. Vabbè, che mi vuole dire Raffaele? Cosa c'entra con l'assicurazione questo discorso? No, per quanto riguarda la sicurezza delle abitazioni c'è un altro grosso problema. Per quanto riguarda le abitazioni private, i direttori di lavori sono facilmente vendibili, si comprano facilmente dal costruttore e di conseguenza si fa risparmio. Per quanto riguarda i lavori pubblici, mangiano, uso questo termine, mi deve scusare, all'ultimo degli uscieri del comune. Cioè la sicurezza è l'ultima delle preoccupazioni. Finché non si va a incidere sui responsabili, cioè dare la responsabilità. Ho capito perfettamente, Raffaele, la ringrazio. Dobbiamo chiudere per questa sera. Lunedì sera, giorno di Pasquetta, ci sarà in conduzione Alessio Maurizi. Io ritorno martedì sera. Arrivederci e buona Pasqua. La Zanzara.